Bene, con un quarto d'ora accademico, il solito, il classico, io vi ringrazio innanzitutto per essere qui perché vedo i relatori, le relatrici, vedo persone che sono venute ad ascoltare. Questo è il terzo incontro di questo percorso che la Fondazione Basso ha messo in cammino. Sono contento di poterlo presiedere io, cercherò di farlo al meglio, ma sono abbastanza tranquillo perché al mio fianco c'è il vicepresidente della Fondazione Basso, Fausto Tortora. E ci sta per raggiungere il presidente della fondazione Franco Ippolito, a dimostrazione di quanto la fondazione tenga a questo progetto, che secondo me è inedito e ha delle novità da sottolineare dal mio punto di vista, ma questo lo pongo al vostro dibattito. È nato tutto da un comitato di persone, Gianni Giannoli che vedete seduto là in fondo, Giacomo Marramao, Mario Campli, Fausto Tortora. E io, insomma, indegnamente siedo a questo tavolo dei cinque. Io sono Claudio Paravati, dirigo la rivista del Centro Studi Confronti. Io dico un progetto che ha qualcosa da dire nella sua novità, nella sua, io credo, anche ambizione per i tempi di oggi. Nella prima lettera che abbiamo formulato a suo tempo per descrivere sommariamente qual era l'intenzione, leggo, così non sbrodolo i miei suggestioni. Con questa iniziativa la Fondazione intende ricollegarsi idealmente alle battaglie che Lelio Basso ha condotto nel corso di tutta la sua vita politica per garantire il carattere aconfessionale dello Stato come condizione ineludibile del pieno esercizio della libertà, in particolar modo di quelle religiose. Credo che in questa frase si era già racchiuso tutto il nodo che noi oggi vogliamo porre. Qual è la novità? Ma diciamo. Metterlo sul piatto oggi, in questa condizione politica, con questa metodologia che io insomma difendo, continuo a difendere, abbiamo posto quattro temi chiave in quattro giornate di studio, l'abbiamo pensata secondo una modalità seminariale, cioè dove puoi dialogare e discutere, prendendoti il tuo tempo di riflettere, ascoltando le altre posizioni, e poi l'abbiamo fatto in maniera aperta, cioè non con un relatore. O una relatrice, ma chiamando relatori e relatrici di varia provenienza, quindi dall'interno delle religioni, per esempio, stesse, o studiosi di religioni, o accademici, o persone impegnate a livello sociale, politico, sul dialogo, anche quello religioso. Insomma, mettere insieme queste voci in un luogo in cui riflettere ha qualcosa di straordinario oggi. Forse è stato fatto anche bene, ma che lo faccia oggi la Fondazione Basso, qui. Per chi come me si occupa di dialogo interreligioso in altri contesti, devo dire che ha una spinta motivazionale, personale non indifferente, e negli altri incontri io l'ho riscontrato anche in chi ha partecipato. Ho detto, finalmente un luogo in cui pensare alle cose, con calma, approfondirle e passatemi il termine, anche farlo in modo politico, cioè con l'intento di pensare alla libertà religiosa oggi, che è un tema, ci rendiamo conto, dalle notizie nazionali e internazionali, che ha sempre più a che fare. Finalmente ce ne rendiamo conto con la qualità della democrazia stessa. Ecco perché oggi è uno dei temi dirimenti, quello dei diritti oggi abbiamo posto. Nei primi due incontri abbiamo parlato di appartenenze, il primo, il secondo sulla verità, il terzo lo stiamo facendo sui diritti e chiuderemo con un incontro sui poteri. Come vedete c'è una mappa ben precisa e politica, insomma, no? Di come noi stiamo in una comunità politica. Non abbiamo tante risposte. Abbiamo interrogativi che poniamo e voi ci date pezzi di risposta che noi sbobiniamo. Ecco, qui c'è un problema. Se avete delle cose scritte, parlo ai relatori e alle relatrici, questo ci aiuterebbe molto perché il cammino della sbobinatura è faticoso, anche se appassionante, credo Gianni. Però insomma, se ci potete aiutare, questi risultati che per noi sono importanti avranno come chiamano oggi nel progetto internazionale, un output, cioè qualcosa di concreto che verrà letto, verrà divulgato. Questo insomma è uno degli obiettivi che ci poniamo, cioè che crei discussione. E come per le altre volte avete ricevuto i relatori e le relatrici un primo testo da cui partire, che provocasse insomma, no, la risposta. Le ultime domande sono quelle che ripeto ad alta voce, così insomma risuoneranno. Sono tante, sono in fila, ma sono quelle che noi ci continuiamo a porre, che sono: cosa sono i diritti allora, oggi? Quali sono? Come sono legati ai doveri e ai poteri? Cosa legittima un diritto? C'è una gerarchia dei diritti? Ecco, qui rispondere insieme a tutto questo non è per niente scontato. Non so quante cose abbia dimenticato, vi presento il programma di oggi, salutando Paolo Naso e Giorgio Gomel che entrano dalla stanza e saluto, parto dal loro saluto per dire tutti coloro che interverranno, in rigoroso ordine alfabetico, se siete d'accordo, come abbiamo sempre fatto nelle prime due giornate di lavoro. Abbiamo con noi Franca Eckert-Cohen, Adnan Mokrani, Paolo Naso, Marinella Perroni, Deborah Scholart, Ilaria Valenzi. Sono le persone che oggi ci aiuteranno, guideranno la nostra riflessione. Naturalmente siamo tutti e tutte chiamate poi a prendere la parola, a fare domande, a dire la nostra opinione e vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Se vi sembra che tutto questo abbia un senso, potremmo cominciare col primo intervento. Fausto, vuoi aggiungere qualcosa? Allora ti aggreghi solo ai saluti iniziali e quindi procediamo con Franca Eckert-Cohen. Franca, se ci vuoi raggiungere, ti ascoltiamo volentieri. Franca è una persona molto importante per chi ha lavorato nel dialogo interreligioso e non solo in questa città e a livello nazionale. Io la ringrazio di cuore per aver accettato l'invito. Qui noi abbiamo messo Comunità Ebraica Riformata Beit Hillel di Roma. Insomma, Franca ha fatto politica, ha guidato insomma, il dialogo in questa città. La sua testimonianza e le sue opinioni su questo tema sono particolarmente preziose per noi. Quindi grazie, a te la parola. Sì. Io però sono appunto un'operatrice, non una ricercatrice. Per cui io racconto quello che faccio, quello che ho fatto, quello che cerchiamo di cambiare, ma poi sentiremo Paolo Naso, sentiremo Perroni, sentiremo chi invece studia nuove formule perché la società migliori come vogliamo noi. Allora, io sì, sono stata, vediamo, c'avevo anche gli occhiali, sono stata invitata per parlare appunto sulla nascita di una riforma ebraica anche in Italia, come esiste da tempo nel resto del mondo. E coniugherei la parola diritti in due modi: uno che riguarda i diritti che riceve l'individuo all'interno di un credo e l'altro i diritti che riceve il proprio credo secondo le leggi dello Stato in cui risiede. E l'ebraismo italiano, con proprie tradizioni millenarie, è definito tradizionale. E anche nelle intese con lo Stato, questo è stato il termine che hanno usato. E però sta diventando sempre più ortodosso. E fa riferimento, i nostri rabbini fanno riferimento all'ebraismo che detta legge in Israele. Non all'ebraismo ortodosso di Israele, perché anche in Israele ci sono varie correnti. Ma quelle a cui si fa riferimento è la corrente che, diciamo, un po' il governo con Netanyahu, ecco, insomma, quel tipo di... Quindi alcuni anni fa un gruppo di persone, fra cui appunto vedo anche Giorgio Gomez, che appartenevano alla comunità, alcune di loro appartenevano alla comunità ebraica romana, e dove sapete che tanto gli ebrei risiedono da più di 2000 anni, ha ritenuto che bisognava avviare qualche cosa verso una strada di pluralismo. E per aprirsi a istanze moderne simili appunto a quella dei progressive, liberal, reform, come si vogliono chiamare, che sono presenti nel mondo anglosassone. E allora con quest'idea della liceità di un approccio plurale all'ebraismo ci si è ritrovati a creare, a partecipare a gruppi che praticavano principi progressivi, inizialmente in case private e successivamente in maniera un po' più organizzata, fino ad arrivare alla creazione di una piccola congregazione che naturalmente vive soltanto di offerte degli iscritti. E così nel 2014 è stata fondata la comunità Beit Hillel Roma, di cui ho svolto all'inizio il ruolo di presidente, i primi 3 anni, e con l'aiuto dei dirigenti della World Union for Progressive Judaism ha avuto l'approvazione e il membership nell'organizzazione dell'European Union, quindi facciamo parte dell'European Union of Progressive Judaism. E già da più di un decennio, addirittura 18 anni a Milano, era nata Lev Chadash e anche Beit Shalom, e a Firenze una piccola comunità che si chiama Shir Chadash, spinte dalle nostre stesse motivazioni. Quindi noi ci siamo aperti il compito, ci siamo assunti il compito di apertura verso l'unione delle comunità ebraiche italiane, ortodossa, tradizionalista. E però sappiamo che è molto difficile una sua accettazione nei nostri riguardi, e quindi abbiamo pensato di unirci tutte le quattro comunità, e nell'ottobre dello scorso anno, di 2 anni fa, ma soltanto lo scorso anno, siamo andati presso un notaio, abbiamo costituito un corpo unico politicamente attivo a livello nazionale, che si chiama Federazione Italiana per l'Ebraismo Progressivo, che appunto è riconosciuta dalla World Union e dalla European Union. Quindi funzionano queste quattro comunità, funzionano in autonomia rispetto all'UCEI, e abbiamo i nostri rabbini che provengono purtroppo tutti dall'estero, perché rabbini che, e neanche che stiamo cercando, parli la lingua italiana, perché non hanno avuto la formazione in Italia e nessun rabbino italiano è di questo tipo di formazione, e però i nostri riti sono praticamente coincidenti con quelli dell'ebraismo ortodosso, naturalmente oltre ai padri di Israele si ricorda le madri di Israele, poi si dà un rilievo alle lingue locali, alcune preghiere si fanno in italiano, però in complesso le festività tradizionali, il ciclo dell'anno, la vita tipicamente ebraica sono come le altre. E in questi anni le comunità progressive hanno eletto i propri tribunali rabbinici, i Bet Din, che giudicano l'idoneità alla conversione, e questo avviene in particolare per i genitori che non sono dello stesso credo ma che vogliono allevare un figlio nell'ebraismo, oppure per coloro, e questi sono parecchi in Italia, per coloro che provengono da ascendenze ebraiche di secoli fa e sono alla ricerca, magari attraverso il cognome o attraverso un oggetto trovato in casa, alla ricerca della loro provenienza. Allora, premesso che né l'ortodossia né la riforma sono due blocchi monolitici, perché della prima fanno parte sefarditi, ashkenaziti, ultraortodossi, haredim, le varie sette chassidiche, e della riforma fanno parte tutte le comunità affiliate alla World Union o Progressive Union, che sono riformate, liberali, progressive, ricostruzioniste ed altre. Allora, queste ultime, cioè diciamo i riformati, rappresentano 7 milioni di ebrei su 8 in totale. Nei paesi Europa, America, Sud America, Australia, e altri 7 milioni vivono in Israele. Allora, i 7 milioni che vivono in Israele, il 20% è ortodosso, e nel resto del mondo appunto solo il 10% è ortodosso. E questo lo dichiara Lauder, che è presidente della World Jewish Congress. Purtroppo in Italia... Ah, bocca mia, sta zitta, perché... No, purtroppo in Italia, mentre all'estero la riforma è comunque riconosciuta, in Italia ancora gli ortodossi dicono ma che cos'è questo, non è nemmeno ebraismo. Però quando dicono quanti siamo nel mondo, non dicono che siamo 3 milioni, ma dicono che siamo 13 milioni, per cui questa cosa va un pochino rivista. Quindi il principio della riforma è adeguare i principi della Torah, della legge ebraica, a oggi, e non viceversa. E progressivo, questo brutto termine in italiano, in particolare si vuole intendere che è un work in progress, perché il mondo cambia, la realtà cambia, e con questo non il testo, ma l'interpretazione delle nostre leggi va variato a seconda dei tempi. Si ispira all'illuminismo ebraico, quindi abbiamo detto all'accettazione paritetica con identici diritti dei due generi ed anche degli omosessuali, dà libertà alle donne di partecipare al culto senza rinunciare ad una piena partecipazione al legame con la tradizione, alla lettura del Torah e dei testi sacri, come dicevamo, tra cui il Talmud. Ora, ecco, senz'altro forse c'è un maggiore atteggiamento critico nei riguardi dei testi sacri, che sono considerati come scritti da uomini ispirati da Dio e non diretta parola sua. L'ebraismo progressivo non rifiuta quindi la precettistica ebraica, ma la vede come composta da comandamenti soggetti ad una critica di elaborazione sulla base della modernità. Un appunto sulla storia della riforma, se volete, giusto qualche nome, nasce in Germania a metà del XIX secolo e gli iniziatori sono Abraham Geiger, Raphael Hirsch, e la rielaborazione dell'ebraismo in chiave moderna alla base degli ideali illuministici della ragione, la Shkalah, illuminazione, che avrebbero aiutato gli ebrei a restare tali e contemporaneamente, come abbiamo visto, a vivere nel mondo moderno. Un'identità rinnovata. Rav Einhorn nel 1866 iniziò a operare con la comunità Emanuel di New York con Rav Shmuel Adler e così poi si è spostato praticamente dall'Europa agli Stati Uniti e si è suggellata la fase della riforma, dando vita accanto al conservatorismo il ricostruzionismo. Il ricostruzionismo è nato per ispirazione del rabbino Mordechai Menachem Kaplan e nel 1918 lui fondò il primo Jewish Community Center, non più necessariamente la sinagoga, ma un Jewish Community Center, cioè ebraismo non è più realtà riconducibile solo a una religione, bensì la civiltà religiosa. Sia la civiltà religiosa, il popolo è il fondamento ultimo dell'ebraismo e anche la religione ne trasmette la tradizione. Si preoccupa di tutte le possibili interpretazioni che vedono nella scelta di Israele un motivo di vanto e di superiorità e quindi rispetto agli altri popoli, quindi sono abolite le preghiere scelte tra tutti i popoli di questo tipo. E come abbiamo detto, la partecipazione delle donne è paritetica a quella degli uomini e quindi porta a dei cambiamenti sia nei rapporti interpersonali ma anche nella liturgia. Per esempio la benedizione che non è mai stata gradita alle donne, per non parlare delle femministe, che recita quella del mattino, grazie di non avermi fatto nascere donna, viene trasformata in secondo la tua volontà. Nella benedizione impartita al popolo, che si faceva riferimento soltanto ai patriarchi, si fa riferimento anche alle matriarche, nonostante la riforma, però il maschilismo esce come in tutte le religioni, anche tra i progressi, perché abbiamo dovuto attendere il 1972 per avere la prima nomina a donna rabbina, che si chiamava Sally Present, era diplomata alla Hebrew Union College di Cincinnati. Non è molto lungo, sai, ho finito. La scelta della federazione è stata quella di mantenere rispetto per l'ortodossia, ma allo stesso tempo di proporsi un'apertura pluralistica per coloro che sentono importanti questi orientamenti. Quindi il compito della FIE è, ma sono vicepresidente anche di questa, tanto siamo sempre gli stessi, come dici tu, il suo compito di questa FIE è ambizioso, perché cercherà di farsi accreditare come vero ebraismo a fianco di quello ortodosso, contro un dispositivo di legge, quello delle intese, stabilito a livello costituzionale, che in assenza di una legge italiana per la libertà religiosa ha già attribuito a Lucei il riconoscimento dell'ortodossia come legittima religione ebraica, con estensione territoriale e prerogative di rappresentanza che non possono derogare al riconoscimento di altre forme di ebraismo. Adesso Paolo Naso, forse qualche cosa di nuovo, non credo che sia uscito. Salvo la possibilità della creazione di un'istituzione ombrello che abbia sotto di sé sia Lucei che la FIEP e altre forme, e il riconoscimento legato alle intese è anche legato al vantaggio, naturalmente, non solo di usufruire dell'8 per 1000, ma per esempio che i nostri rabbini possano effettuare matrimoni, cerimonie di questo tipo, perché naturalmente, oppure avere i permessi nelle scuole, per esempio del lavoro, i giorni di festa, gli alunni non frequentare, insomma sono tanti i vantaggi che si possono avere. E quindi ecco. Quindi la FIEP dovrà operare sul fronte della UCEI per un riconoscimento, che difficilmente sarà concesso, credo. E sul fronte autorità italiane, sì, ho già sentito dalle prime scambi di parole lettere che forse si preferisce cambiare la parola tradizionale nelle intese e scrivere ortodosso, così almeno... Comunque, non voglio anticipare i tempi. perché il riconoscimento di ebraicità venga appunto riconosciuto alla luce della massa critica di ebrei nel mondo che si riconoscono nell'ebraismo progressivo, perché poi la maggior parte degli ebrei italiani si comporta progressivo e non ortodosso. Si tratta quindi di un lungo lavoro ostacolato dalle caratteristiche e dalle carenze della legge italiana sulle religioni ammesse, che proviene negli anni 30 in pieno regime fascista e non più sostanzialmente modificata. Mi piacerebbe, se mi date ancora qualche minuto, la Corte Suprema di Cassazione, visto che sono in quest'ambito, la Corte Suprema di Cassazione lunedì 13 dedica un convegno a Ludovico Mortara, che fu ministro della giustizia e degli affari di culto negli anni 30 e che era il fratello mia bisnonna, e il figlio del rabbino Mortara di Mantova. E allora lui all'epoca dice, parliamo appunto del 1930, della legge, l'ebraismo ufficiale accolse il RD del 1930 come un fatto storico nella vita ebraica in Italia e una tra le migliori leggi che in qualunque paese regolino i rapporti della popolazione ebraica con le sue comunità. Tra gli ebrei non mancarono certo voci dissenzienti, provenienti per lo più da personalità come l'economista Piero Sraffa e il giurista Ludovico Mortara, che appartenevano agli ambienti dell'ebraismo assimilato, non confessionale e tantomeno sionista. A essi fecero capo due obiezioni di fondo sulla legge. La prima concerneva la valenza generale di un provvedimento che si riteneva rischiasse di equivalere nel contesto politico del tempo a una sorta di autoghettizzazione e di avallare così la crescente discriminazione degli ebrei assimilati, sempre più esclusi da posizioni di preminenza nelle pubbliche istituzioni. In altri termini, la legge del 30 veniva interpretata come una risposta adeguata ai problemi dell'ebraismo organizzato, ma nello stesso tempo funzionale alla tendenza antisemita, cattolica, ancor prima che fascista, interessata a ripristinare una netta distinzione tra ebrei e non ebrei. L'altro rilievo riguardava il convincimento che l'atto di abiura dell'ebraismo, richiesto a chi non intendesse più appartenere alle comunità, costituiva una forte limitazione della libertà di coscienza. La lesione di tale fondamentale diritto di libertà fu oggetto di alcune lettere che l'ex guardasigillo Mortara indirizzò nel 31 a Mario Falco, esprimendovi una parziale ma decisa disapprovazione del regolamento applicativo della legge appena entrata in vigore. E nella nota dice, e ho finito, quanto al regolamento scriveva, non posso disapprovarlo in tutto perché è compilato sub legge cogente. Ma le dico in confidenza, egregio amico, che ho imparato moltissimi anni sono un versetto del Pentateuco, era figlio di un rabbino, che le scriverei qui in ebraico se non avessi timore di commettere sbagli di ortografia. Ma ricordo bene che si traduce così. In qualsiasi luogo tu rammenterai il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Indi la mia fermissima e incontrollabile convinzione che avete torto tutti quanti, che pretendete una forma di mezza biura da chi non voglia contribuire con denaro alle spese della comunità e lo colpite per di più col rifiuto della sepoltura presso i suoi cari. Questa intolleranza bella e buona e Dio non l'ha insegnata né autorizzata. Finito. Grazie Franca. Grazie Franca. Sì, volentieri. Grazie, grazie mille. Concluderà Luigi Ferraioli, che salutiamo. Grazie per essere arrivato. Ho già salutato il presidente Franco Ippolito prima, ma forse era fuori, ringraziamo per essere qui. Insomma, questa è materia loro, materia vostra, quindi starò molto attento a commentare, darò la parola quindi più saggiamente ad Adnalmo Crani per il secondo intervento. Adnalmo Crani è un teologo per tutti noi riferimento, dell'Islam, del dialogo, noi lo seguiamo da anni, stimiamo il suo lavoro, grazie per aver trovato il tempo di essere qui con noi e ascoltiamo con piacere. Innanzitutto grazie per l'invito e per questa opportunità di riflettere insieme. di condividere con voi alcune riflessioni, partendo da una domanda fondamentale sulla religione e l'Islam in particolare nel rapporto con la politica e lo spazio pubblico. Se la religione fa parte del problema o fa parte della soluzione, aiuta o ostacola lo stato di diritto, la piena cittadinanza, oppure crea dei problemi e degli ostacoli. Cosa offre la religione alla politica e cosa non offre la religione? In modo generale si può dire che la religione non offre un sistema politico. Troviamo principi, valori, ma non possiamo dire che una religione è socialista o capitalista o monarchista oppure anarchista. Per esempio nel Corano troviamo il principio della consultazione, ma non ci spiega come si fa la consultazione, in che modalità, soprattutto a livello istituzionale. E poi questo valore è valido anche per la famiglia, per il lavoro, per la scuola, per la vita quotidiana. Non è solamente un valore politico, è un valore inclusivo, generale. La religione non offre un sistema economico. Troviamo lo stesso dei valori, come ad esempio il Corano parla del divieto di monopolizzare le ricchezze, parla di solidarietà sociale, parla dell'ingiustizia e la necessità della giustizia, parla dei diritti, ma comunque non abbiamo un sistema nel senso moderno del termine. La terza cosa che la religione non offre è un sistema giuridico. In verità questo è il problema, questo è il nucleo del problema per tanti motivi. È il primo motivo che usiamo le stesse parole per dire cose diverse lungo la storia. Dunque non solo sul piano orizzontale ma anche sul piano verticale. Usiamo la parola Stato, ma il significato dello Stato moderno non ha niente a che fare con lo Stato premoderno. Parliamo di sistema giuridico oppure di diritto. Per esempio si parla di diritto islamico. Secondo me è una traduzione sbagliata, perché il diritto religioso in verità non ha bisogno di un potere esecutivo, non ha bisogno di uno Stato, nel senso che l'Islam ha conosciuto scuole giuridiche, tante scuole giuridiche. Dunque c'è un patrimonio molto ricco su come il musulmano deve comportarsi nella vita quotidiana, dalla nascita fino alla morte. Ci sono tante regole da seguire e talvolta anche punti di vista divergenti e conflittuali tra di loro. E dunque questo carattere si può dire normativo, etico, può prendere talvolta anche forme giuridiche. Questo è stato visto e vissuto nel passato, nello stato premoderno, in modo molto diverso a quello che noi oggi viviamo. Per esempio, nell'ambito islamico, gli stati hanno riconosciuto una certa autonomia delle religioni. tribunali religiosi per le comunità, tribunali per gli ebrei, per i cristiani, per le diverse chiese, per i diversi gruppi di ebrei, rabbinici o craitici oppure altri. Dunque c'era questa autonomia che è stata preservata fino, diciamo, alla fine del Novecento con l'impero ottomano. Il sistema giuridico moderno è molto diverso. C'è un riferimento giuridico unico dello Stato tramite il Parlamento, tramite le elezioni, sistema democratico, eccetera. E dunque questo, secondo me, è il nucleo del problema, perché le religioni sono nate in un contesto premoderno, hanno adottato sistemi oppure idee oppure forme di espressione religiosa, pratiche legate a culture premoderne. La difficoltà è di adattarsi, di aprirsi, di dialogare con la modernità, il dialogo con la modernità, che lo vediamo in diversi modi. Abbiamo sentito poco fa questa tensione che si trova tra ebrei tradizionali, ortodossi, progressisti, liberali, riformati, eccetera, eccetera. La stessa cosa per il cristianesimo, la stessa cosa per l'Islam. Questa tensione esiste. Sul piano giuridico si manifesta in modo più chiaro nel diritto di famiglia. Secondo me il dibattito è il nucleo del dibattito giuridico, perché si può dire sul piano internazionale, commerciale, diritto civile, eccetera, lo Stato moderno ha potuto distaccare questi settori dal dominio diretto della religione, ma le religioni controllano ancora almeno una parte del diritto di famiglia. Per questo troviamo questo dibattito, ad esempio, in Tunisia sull'eredità, l'uguaglianza di eredità tra donne e uomini, questo progetto di legge in Tunisia per cambiare la legge e permettere alle donne di ereditare come gli uomini. In Europa troviamo anche la questione del matrimonio omosessuale, dell'adozione. Sono tutte domande, problemi legati al diritto di famiglia tradizionale, conservatore oppure moderno, progressista, nuovo. Dunque questa è la difficoltà. Dunque, perché la natura della società è cambiata, la natura dello Stato è cambiata, e dunque è diventato immorale imporre un sistema giuridico religioso. I religiosi devono sentirsi parte della società, ma non hanno il diritto di tutelare la società, di dominare la società. Questa umiltà, questo atto di umiltà religiosa, che è un atto di liberazione da una certa supremazia oppure orgoglio oppure arroganza, e sentirsi un pezzo del mosaico e non tutto il mosaico. E dunque, alla fine, se la religione non offre un sistema politico, non offre un sistema economico e non offre neanche un sistema giuridico, perché nel Parlamento il dibattito è aperto per religiosi, meno religiosi, non religiosi, religiosi diversamente, e dunque alla fine il linguaggio razionale, l'interesse comune, il bene comune deve essere la logica del dibattito, non perché Dio ha detto in testo oppure qualcosa, un'autorità soprannaturale deve guidare la decisione del Parlamento. Dunque questo carattere pluralistico della politica e della democrazia. Ovviamente qui c'è l'elemento dello Stato laico, visto come garante di pluralismo, garante di uguaglianza, garante di diritti. Uno spazio neutrale dove i cittadini si sentono uguali davanti alla legge e allo Stato. È molto interessante seguire in questi ultimi tempi i cambiamenti nel mondo arabo, ad esempio in Algeria e in Sudan. Adesso i militari cercano in Sudan di mantenere il potere. L'opposizione, il popolo che ha fatto questa rivolta, chiedono uno Stato civile, un Stato laico, perché in arabo si usa civile piuttosto che laico, per motivi storici, ma alla fine il contenuto è lo stesso. E stranamente i militari hanno tirato fuori la carta della religione, che vedendo nello Stato civile una cosa che potrebbe contraddire l'idea che la Sharia, oppure il diritto tradizionale, sia la fonte del diritto dello Stato. È un problema fuori tema, ma viene usato per disturbare questo cammino di liberazione, di uguaglianza e di diritti. Alla fine, per concludere, cosa veramente offre la religione? Questo ci porta alla missione della religione, a che cosa serve la religione. La religione, a mio parere, questo possiamo anche discuterlo, serve a liberare l'essere umano dall'ego, l'egoismo, chi si manifesta in possessione, in supremazia, e diventa una prigione, una scatola che impedisce all'essere umano di aprirsi a Dio, all'umano, al cosmo, di essere in dialogo con il creato e con il creatore. C'è una missione pedagogica, una missione di educazione, di liberazione, una missione di attualizzazione del potenziale umano, la trasformazione e la formazione dell'essere umano per diventare più umano, realizzare di più la sua umanità. Secondo me questa missione nessun Parlamento può farla, nessuna legge può realizzarla in modo esterno, ma una cosa interiore, dunque una conversione, si può dire. Forse in questa maniera la religione potrebbe contribuire in modo positivo nella formazione di un cittadino capace di servire, aiutare, costruire, una persona pacifica, solidale e crede in valori condivisi. Questo è molto fondamentale, perché noi crediamo in tanti valori, nella giustizia, nella pace, eccetera, ma sappiamo che il significato della giustizia lungo la storia ha conosciuto grandi cambiamenti. Quello che può essere oggi giustizia poteva essere anche ingiustizia nel passato, o il contrario. E dunque la concretizzazione, dare forma ai valori, richiede un negoziato sociale, richiede una condivisione convinta del significato attuale dei valori, nelle forme aggiornate dei nostri valori condivisi. E per questo una religione non ha il monopolio del significato e della forma che deve avere il valore nel tempo attuale. Questo si può costruire insieme, dialogando, ma anche in forma politica, pensando insieme sul piano politico. Un'altra cosa che posso anche dire, secondo me viviamo, come conclusione, sì, viviamo due momenti diversi tra la sponda nord del Mediterraneo e la sponda sud del Mediterraneo, tra l'Occidente e il resto del mondo, forse, troviamo una regressione della democrazia, una democrazia stanca, la stanchezza della democrazia. Vediamo veramente minacce, regressione, una crisi profonda di società e di democrazia. E qui i musulmani europei e occidentali, il loro destino forse è diventare un criterio di democrazia, come gli ebrei sono e sono stati anche un criterio per misurare il livello della democrazia in un paese. Nell'altra parte del mondo, nel mondo islamico in generale, troviamo una grande sete di democrazia, un grande desiderio, una grande voglia, la cosiddetta primavera araba, ma anche attuale nella sua seconda versione, si sente questo. E anche le minoranze sono uscite fuori nello spazio pubblico per dichiarare la loro identità, spesso nascosta. Per esempio, sentendo alla radio giovani sudanesi cristiani che possono contribuire a questo dibattito, a queste manifestazioni, dichiarare la loro appartenenza alla cittadinanza e alla loro religione. La stessa cosa in Tunisia, eccetera. Questo lo vedo. Come possiamo creare un dialogo tra questa democrazia invecchiata e stanca in Occidente e questa giovane democrazia che è piena di desiderio, di sete, di passione verso una nuova cittadinanza? Secondo me questo dialogo tra le forze democratiche nel mondo potrebbe aiutare noi tutti e tutta l'umanità ad arrivare ad una coscienza democratica, e qui le religioni, se riescono ad essere una voce profetica e critica, che critica tutte le derive della democrazia, in questo caso le religioni possono sopravvivere alla modernità e avere un ruolo determinante nel futuro dell'umanità. Grazie. Grazie a te di cuore, ad Almo Crani, per queste suggestioni importanti. La sfida delle religioni che devono sfidare la modernità, sono sfidate dalla modernità, ma che d'altra parte possono essere motivo di crescita del cittadino. È bellissima questa suggestione finale, come le democrazie in crisi e quelle invece agognate possono costruire un nuovo spazio plurale e democratico. Lo chiediamo però a Paolo Naso direttamente, chiamato qui al tavolo. Paolo Naso insegna alla Sapienza, lo conosco bene, ha pubblicato di recente con grandissimi curatori un libro importante, Il Dio dei Migranti, è stato dentro il Consiglio per un patto con l'Islam al Ministero dell'Interno, quindi insomma è anche un testimone, oltre che uno studioso, che conoscete bene di fama, insomma, un testimone delle operazioni del dialogo, della costruzione del diritto, dell'avvicinamento in particolare con l'Islam, ma non solo. Insomma, Paolo, a te la parola. Cosa ha a che fare quello che abbiamo appena visto, questa democrazia in crisi, questa sete di democrazia, perché le religioni sono ancora in giro e cosa hanno a che fare con i diritti, dal tuo punto di vista? Grazie, grazie anche per l'idea, diciamo, di mettere in piedi un laboratorio di questo tipo. E io però soltanto in premessa, almeno in premessa, vorrei stare con la carta di apertura di questo laboratorio, che, se capisco bene, sostanzialmente ci richiamava, ci riponeva la domanda sulla natura. Allora, quale sia il fondamento giuridico delle norme, che è un tema che nella filosofia politica è antica quanto Aristotele e quanto Platone, cioè che cosa fonda la legge? Una risposta è stata: Dio fonda la legge, e un'altra risposta è: no, la legge è il frutto della mediazione umana. A queste due variabili, che in parte resistono ancora oggi nel dibattito sulla laicità dello Stato e delle istituzioni, però credo si debba anche aggiungere una terza opzione, oggi quanto mai popolare, cioè non è Dio che fonda la legge, non è la mediazione politica che la fonda, ma è il libro sacro. E faccio riferimento al soggetto prepotentemente in campo nella scena politica globale, che sono i fondamentalismi. Termine che credo debba essere metodologicamente e pregiudizialmente declinato al plurale, nel senso che se con ovvia e giustificata ragione noi guardiamo con apprensione al fondamentalismo di matrice islamistica, credo che con altrettanta attenzione si debba guardare a quello di matrice ebraica, e detto da un protestante credo di dover dire anche quello di matrice evangelico-protestante. Nel senso che innanzitutto il protestantesimo ha una sorta di triste primato nella elaborazione concettuale del fondamentalismo, addirittura il termine nasce in casa protestante, intorno a un tema del 1925 legato alla nascita dell'uomo. Che cos'è l'uomo? È una creatura di Dio secondo ciò che la scrittura ci insegna, e quindi effettivamente il libro che racconta la genesi vera dell'uomo è appunto la Genesi, in tutte le sue articolate, fantasiose espressioni, il fango, il fiato, la costola e così via, ovvero invece l'uomo e la donna sono figlio di un processo evolutivo. Ecco, su questo nasce il fondamentalismo. La prima espressione, anche terminologica, del fondamentalismo la troviamo nel dibattito intorno agli anni 20 negli Stati Uniti su questo tema: chi ha ragione, la Bibbia o Darwin? È abbastanza interessante vedere, come credo che già Adnani abbia sottolineato, che i fondamentalismi tutti cominciano da questo dibattito di natura antropologica, che diciamo poi in realtà dei fatti muove molto poco all'inizio. Però secondo un crescendo che noi troviamo parallelo nei diversi fondamentalismi, da lì passa un altro settore che invece ha una incidenza sociale molto forte, la famiglia. Perché a seconda dell'opzione che noi scegliamo e quindi della risposta che noi diamo alla natura antropologica dell'individuo, creatura di Dio, ovvero evoluzione di una specie, noi possiamo dare a definire un certo modello di famiglia. Arrivando al modello di famiglia, laddove intendiamo la famiglia come cellula fondamentale della società, immediatamente finiamo col dare una risposta politica alla domanda che invece è di natura puramente teologica o addirittura antropologica: che cos'è l'uomo, l'evoluzione oppure una creazione? I fondamentalismi partono da questi temi di ordine generale, arrivano immancabilmente alla famiglia. La famiglia, la concezione di famiglia è il campo di battaglia prediletto di tutti i fondamentalismi, arrivano alla società e in alcune versioni del fondamentalismo evangelicale, ma anche di quello ebraico, si arriva alla geopolitica. nel senso che l'ultima e più inquietante variabile dei fondamentalismi è proprio il fondamentalismo apocalittico di matrice evangelicale, di cui non Trump, che poverino a queste cose non può, non ha gli strumenti concettuali per comprenderle, ma il suo vice controlla perfettamente, Mike Pence, militante attivo delle chiese pentecostali fondamentaliste apocalittiche, ha perfettamente chiaro. Per cui non soltanto la vicenda dell'uomo, ma anche la vicenda geopolitica risponde a un disegno di Dio ed è all'interno di un progetto di Dio nel quale la dimensione della guerra è una dimensione non soltanto essenziale, ma addirittura auspicata, perché soltanto la guerra anticipa la venuta del Messia. E qui un certo fondamentalismo cristiano di matrice evangelicale si sposa per convenienza politica con un altrettanto aggressivo fondamentalismo di matrice ebraica. E quindi paradossalmente, benché il destino finale degli uni sia convertire gli ebrei e degli altri rimanere ebrei, in realtà in questo meantime, in questo interim, si può camminare insieme per colpire insieme gli altri, cioè i musulmani e i cristiani, diciamo, moderati. Quindi io introdurrei questa variabile dei fondamentalismi sia nella loro pluralità diciamo quantitativa, quindi tanti fondamentalismi confessionali e non solo uno, ma anche nella loro pluralità qualitativa, cioè il fondamentalismo della visione teologica, nella visione del rapporto col testo, alla famiglia, fino ad arrivare al fondamentalismo di matrice apocalittica. Di fronte a tutto questo, una certa cultura politica che questo luogo ben esprime, nella quale insomma tutti noi ci siamo in vario modo riconosciuti, concepisce una tentazione che io dico francamente, sono ovviamente interessato a sentire la vostra opinione, sarebbe una tentazione sbagliata. La tentazione è quella di fare a meno delle religioni, cioè di comprimere il più possibile il religioso in una dimensione periferica dello spazio pubblico. Meno religioni più ordine, meno religioni più eguaglianza, meno religioni più coesistenza pacifica, meno religioni più ordine sociale. In altre parole, concepire ciò che in altra formula si può definire una laicità per sottrazione. La laicità tanto più positiva quanto più spazio sottrae a questo nuovo protagonismo deleterio, distruttivo, antagonista delle religioni. Lo dico forzando un po' anche il mio pensiero, io penso esattamente l'opposto. Penso che il modello di laicità, proprio per le ragioni che ho già accennato, debba essere al contrario un modello di laicità per addizione. Cioè un modello di laicità che assume la variabile del pluralismo come una variabile essenziale. Certo, siamo dentro una cornice laica, di una separazione tra lo Stato e le confessioni religiose, di una distinzione delle sfere di competenza, ma una distinzione che non è neutrale, che non è la distinzione dello Stato diffidente che quanto più la religione è marginale tanto più celebra la sua laicità, ma di uno Stato che invece si fa promotore di una sana politica di pluralismo. E da questo punto di vista il contesto, insomma, lo scenario in cui questa tesi, secondo me, trova forza, è lo scenario che in vario modo abbiamo provato a definire come lo scenario post-secolare. Questo nel nostro contesto italiano mi pare particolarmente vero e particolarmente cogente. Noi stiamo affrontando un nuovo pluralismo religioso. Ci sono 6 milioni di persone che vivono in Italia dichiaratamente fanno riferimento a tradizioni religiose diverse da quella cattolica. Vi è uno sfaldamento dell'unità e delle modalità di appartenenza al cattolicesimo che è stato documentato da decine di studi di autorevolissimi sociologi e osservatori. Quindi davvero oggi il modo di concepire la religione in Italia è un modo pluralista, dentro il mondo cattolico ma anche al di fuori del mondo cattolico. Abbiamo il massiccio fenomeno delle nuove presenze religiose o del nuovo pluralismo religioso, largamente coincidente con l'esperienza migratoria, 5.200.000 migranti stabilmente in Italia, stabilizzati, non quelli che non fanno dormire Salvini, quelli che i nostri figli conoscono benissimo, quelli quelli che ci troviamo come colleghi all'università o nella fabbrica, quel tipo di immigrazione stabilizzata. Migranti che, grazie per la citazione, vivono la loro religiosità in una, in un grado di intensità a noi ignoto. Saranno ragioni di ordine sociologico, saranno ragioni legate ai meccanismi di resilienza delle religioni, sarà il bisogno di un rifugio identitario dentro una società che ti respinge, ma è un fatto che la religiosità degli immigrati costituisce un fatto nuovo e importante anche nella nostra scena. E tutti questi elementi mi fanno dire che, anche se la tentazione di fronte all'insorgere dei fondamentalismi sarebbe quella della rimozione e del deposito a distanza, invece la società democratica e laica deve fare i conti quotidianamente con queste nuove dinamiche religiose. E da questo punto di vista dobbiamo anche ripensare la nostra idea e la nostra strategia di laicità, che a mio modo di vedere molto spesso è stata intesa appunto come sottrazione, sempre di più dobbiamo immaginarla come addizione. L'esempio spettacolare che ci ha offerto Franca direi che è esemplare. Se mi pagate vi do anche due suggerimenti, ma direi essere pagato per questa consulenza. Ci sono due modi per scardinare il meccanismo che tu hai dato, che sono due modi che sono dentro la legislazione del 1929-30, che ha due firme, una di un ebreo, che è già ricordato, e l'altro di un valdese, che cito, Mario Piacentini. Questi due signori, tutti e due simpaticamente vicini, diciamo, al regime, decidono di scrivere una legge, e questa legge viene fatta arrivare al ministro Rocco. Il ministro la rielabora a modo suo, poi li convoca. Io ho trovato il verbale in cui il moderatore della tavola valdese riferisce del suo incontro con Sua Eccellenza il ministro, che lo informa della legge che sta arrivando, e dice: a parte il fatto che mi ha ricevuto in maniche di camicia, che non è elegante, è certamente una legge che apre un orizzonte nuovo per le libertà religiose nel nostro paese. Cara Franca, lo dicono un ebreo e un valdese. Abbiamo una bella responsabilità sulla coscienza. Allora, grazie però al fatto che questo farraginoso, orribile ferro vecchio, emendato variamente dalla Corte Costituzionale, è ancora in vigore, e non essendoci neanche alle viste l'idea di una nuova legge sulla libertà religiosa, cioè questo temo che sarà un argomento che la mia generazione non vedrà, data la sensibilità politica e del vecchio quadro, del nuovo quadro su questo tema, dobbiamo fare i conti con il vecchio sistema. Il vecchio sistema ha due trappoline. La prima, il riconoscimento dei ministri di culto, che prescinde totalmente dall'intesa, ed è un provvedimento amministrativo del Ministero dell'Interno. Si fa una letterina, si dice: io chiedo che il rabbino tal dei tali venga riconosciuto come ministro di culto, e vediamo che succede. Perché le norme che vietano, i criteri che vieterebbero la nomina del ministro di culto sono criteri di ordine di sicurezza, cioè che è un criminale, che non ha la cittadinanza, altrimenti hanno ottenuto la nomina ministeriale, direi, no, tutti, ecco, potrei dirlo in modo più colorito, ma insomma si può fare. Se non si facesse, si fa un bel ricorso. Come mai questa persona specchiata, che ha una laurea di qua, un master di là, che è riconosciuto dalle organizzazioni ebraiche, non ha ottenuto questo tipo di riconoscimento? Prima cosa. Seconda tappa è invece il riconoscimento dell'ente giuridico, come ente confessionale, che prescinde totalmente dall'intesa e vi fa sfuggire da quella trappola micidiale di chi ha scritto molto acutamente l'intesa, dicendo che l'ebraismo ortodosso rappresenta pars pro toto tutto l'ebraismo, ma è stata scritta con grande intelligenza quella norma, pensando, prevedendo, temendo, split come quelli che poi si sono verificati. Anche in questo caso, la procedura per riconoscimento giuridico dell'ente è una procedura di tipo amministrativo, addirittura con possibilità di ricorso. E allora, per chi voglia farsi notare, mi sembra che siano due piccole strategie che dentro questa cosa orribile della legge sui culti ammessi siano comunque possibili e siano comunque date. Mi avvio alla conclusione, perché ho trovato bellissima quella espressione di Adnan quando diceva: ciò che è storicamente rappresentato la questione ebraica, oggi nell'Occidente è rappresentato dalla questione islamica. Io aderisco perfettamente a questo tipo di ragionamento e vi voglio fare parte di un percorso che è stato fatto e che, a mio modo di vedere, rischia di essere troppo prematuramente bruciato e liquidato. L'argomento principe per il quale non si fa l'intesa con i musulmani è che i musulmani sono divisi. Questo è l'argomento. Non importa che esistano intese con 5 chiese evangeliche, non importa che esistano intese con 2 enti buddisti, non importa che esisterà un'intesa anche con la Chiesa ortodossa rumena, oltre che con la Sacra Arcidiocesi d'Italia, cioè con 2 enti ortodossi, nei confronti dei degli musulmani devono prima mettersi d'accordo. Allora, grazie a un'azione, come dire, di cucitura, grazie a Claudio per aver ricordato anche il mio ruolo in questo percorso, nel periodo, nelle finestre dei governi Renzi e Gentiloni è stato possibile arrivare alla redazione di un patto nazionale per l'Islam in data 1 febbraio 2017, in cui tutte le grandi associazioni islamiche hanno sottoscritto un patto di fronte al ministro, che ha sottoscritto anch'egli, in cui, come le tavole di Mosè, ci sono 2, diciamo, ordini di argomenti. Un argomento è l'argomento dell'impegno delle comunità islamiche: trasparenza, formazione degli imam, locali adeguati, sermone in italiano in modo da renderlo comprensibile anche agli altri, e poi le attività di preghiera, per carità, come credono, ma che ci sia anche questa sorta di elemento simbolico di apertura nei confronti di chi entra in una moschia e vuole capire cosa si sta dicendo. Ovviamente percorsi di dialogo e, d'altra parte, da parte dello Stato, scritto nero su bianco, azione prodromica, mi rendo conto che l'aggettivo può suscitare qualche perplessità, azione prodromica in vista dell'intesa, detto e scritto dal Ministro dell'Interno insieme a tutte le associazioni islamiche. Ovviamente capite che di questi tempi un percorso di questo tipo è difficilmente rimettibile al centro dell'agenda politica, così come del tutto realistico rimettere al centro dell'agenda politica il superamento della legge del 1929, così come è difficile immaginare di dare riconoscimento al nuovo pluralismo religioso che c'è in Italia. Concludo con una formulazione preoccupata, cioè: in un contesto in cui anche i margini di laicità si fanno più flessibili, si rivendicano rosari in tasca e elementi di contorno religioso laddove forse bisognerebbe essere più sobri nell'espressione, cioè laddove ritorna un'immagine dell'Italia cattolica, naturalmente cattolica, paesaggisticamente cattolica, plasticamente cattolica, al di là dei comportamenti, in cui quindi c'è meno laicità. In un'Italia in cui diventa più difficile parlare del pluralismo e del nuovo pluralismo religioso, diventa più difficile parlare delle intese con l'Islam, parlare dei diritti delle confessioni religiose, bene, in questa Italia con meno laicità e meno pluralismo, temo si debba prevedere anche un'Italia con meno democrazia. Marinella Perroni. Meno religioni, meno democrazia, dacci tu le risposte. Grazie intanto al professor Naso, accogliamo con piacere Marinella Perroni, per noi è una teologa di riferimento, la seguiamo da tanti anni, grazie per aver accettato l'invito di cuore. Vediamo quanti diritti dobbiamo ancora acquisire, dove e come. Bene, buonasera. Io sono qui per un solo motivo, perché Claudio me l'ha chiesto. E siccome gli avevo detto di no tante altre volte, questa volta ho detto: qualsiasi cosa mi chiedi lo faccio, e quindi sono qui. E non sono probabilmente la persona adatta, perché non è che, soprattutto dovendo parlare dopo che hanno parlato altri che hanno una visione molto più competente della situazione religiosa nel nostro paese e fuori. Io sono una biblista per sé, quindi faccio altro. Ho semplicemente pensato due o tre cose che forse possono servire al dibattito. Intanto due premesse. Una è che la tradizione biblica e l'esperienza dei popoli dell'antico vicino Oriente testimoniano che la configurazione di un gruppo umano come popolo avviene attraverso un processo di regolamentazione che stabilisce un quadro legislativo e all'interno di esso l'esercizio o meno di alcuni diritti e poi che garantisce anche identità e controllo sociale. Questa è assolutamente una banalità da cui partire, però che mi sembra estremamente importante, perché almeno per tutte e tre le religioni di cui qui parliamo, quindi ebraismo, Islam e cristianesimo e Islam, per andare in ordine, qui si va in ordine alfabetico, andiamo in ordine cronologico, la matrice, la radice è la stessa, solo con una grossa differenza, cambiamento per tutte e tre, che mentre l'identità e quindi il riconoscersi all'interno di un pacchetto legislativo prima all'origine e nei primi tempi coincideva con altri elementi, la terra, l'appartenenza, la lingua eccetera, una tradizione, e a un certo punto esplode e quindi diventa un fatto trasversale. Quindi il riferimento alla originaria regolamentazione che era contemporaneamente sia religiosa sia civile diventa un problema. Probabilmente aveva dei problemi anche prima, però dopo questa trasversalità per cui popolo diventa una realtà all'interno di altri popoli, al confronto con altri popoli e anche con altre regolamentazioni e altre proposte o richieste di diritti, è chiaro che la situazione cambia. Paolo Naso diceva che diventa rilevante il riferimento al libro piuttosto che a Dio. È vero, ma poi il libro diventa assolutamente fondamento per la pluralità delle ermeneutiche, delle possibilità di interpretazione, eccetera. Direi la prima questione, che questa origine, questa radice in cui fede e diritto, fede e legge sono così fortemente legati, la prima questione, mi sembra che lo accennava Paolo Naso, è che la tradizione biblica, come quella di tutte le altre civiltà antiche, è che questo processo di regolamentazione attiene alla volontà divina e quindi è ascritto alla volontà divina e determina quindi una configurazione teocratica dell'autorità. Il sistema funzionava in un certo modo, è chiaro che adesso tutti questi elementi appunto sono esplosi. Una seconda questione è appunto la trasversalità ormai dell'accezione di popolo, ma anche di appartenenza religiosa. Quindi questa è una prima considerazione proprio iniziale. Una seconda, che la prendo da tutt'altro orizzonte, la mia formazione di teologa cattolica femminista è radicata nella consapevolezza che la possibilità di una visione critica del testo sacro, a partire dalle istanze delle donne o women friendly, nasce e prende vigore all'interno di una battaglia sociale per i diritti, che ha visto prendere forma e imporsi anche il protagonismo delle donne. Quindi che quello che è fondamento, punto di partenza, libro sacro, eccetera, può continuare a sussistere solo se viene ripensato a partire dalla rottura che il femminismo ha preteso o comunque ha contribuito all'interno degli stati che andavano verso una laicità sempre più forte, preteso di esprimere un proprio protagonismo. Lo statuto di appartenenza delle donne alle chiese è fortemente connotato nel senso di una politica dei diritti. La salvezza sarà pure per grazia, ma il riconoscimento ecclesiale bisogna lottare per pretenderlo. E è interessante che anche questo è un elemento su cui la discussione tra le nostre tre tradizioni religiose può trovare una piattaforma, se non altro, di riflessione, di impulsi comuni. Bene, queste erano due premesse che vengono da le uniche cose che io posso dire di mio su questo tema. Vorrei però fare alcune considerazioni rapide. Uno è, una viene da un fatto che se io vado a cercare in un dizionario di teologia o di teologia morale, di quelli classici, la voce diritti semplicemente non c'è. C'è la voce diritto canonico, giustamente. No, ma è giusto, cioè, quella è giusto che ci sia, fa riflettere che non ci siano le altre. Invece, nell'Enchiridion dei testi del Vaticano II, qualcosa, molto poco, però si trova. E cioè, si trovano naturalmente, è chiaro che questo per me è gli ultimi sviluppi della mia tradizione di appartenenza, quella cattolica, assolutamente concordando con Paolo Naso, nel senso di dire cattolica, dovresti poi declinare una serie di aggettivi per rendere ragione di questo termine, ma non dice niente, dice solo appartengo in Italia a una religione, a una tradizione religiosa che ha più pretesa delle altre perché c'è un'ipoteca storica e anche numerica, ma appartengo a una tradizione religiosa che forse è la più sfilacciata delle altre, proprio per lo stesso motivo poi. Quindi. Bene, allora è interessante che il concilio, che per noi dovrebbe essere l'istanza poi di rinnovamento più importante, riesce a parlare di diritti, il che già è qualcosa di importante perché non apparteneva alla tradizione delle discussioni conciliari usare questo linguaggio, però sicuramente nel momento in cui affronta il tema della guerra, no? E allora lì i diritti diventano il valore immutabile del diritto naturale delle genti e dei suoi principi universali, cioè di fatto una genericità su principi e valori che non coincideva minimamente né alla realtà degli anni 60 né tantomeno a quella odierna, però un'aspirazione. Poi il Concilio invece affronta alcuni diritti, non dico che tematizza, ma affronta alcuni diritti specifici sparsi all'interno della trattazione di vari temi. Quindi diritto alla legittima difesa, diritto al lavoro, diritto a fondare associazioni di lavoratori, diritto di voto, diritto all'educazione. E naturalmente principe, nel senso che lo tratta e addirittura dedica a questo un intero documento, il diritto alla libertà religiosa, che è anche questo un segnale indicativo, perché comunque impone anche alla tradizione cattolica, del tutto convinta di essere, almeno per alcuni suoi capi, di essere depositaria non della verità ma di tutta la verità, che è molto diverso, questo confrontarsi col problema della libertà religiosa è chiaro che chiede poi non solo quello che viene fatto nei documenti, cioè riconoscere il diritto ai cattolici di professare la propria fede in altri paesi, ma tutto sommato anche di cominciare a capire che se si pretende di riconoscere la propria, esiste anche poi la necessità di riconoscere altrui libertà religiosa. Allora, tutto questo, d'accordo, capiamo che sono metà degli anni 60, capiamo qual era il clima, capiamo anche tutto sommato il ritardo con cui la Chiesa Cattolica si apre o tratta di temi che hanno a che fare, tratta all'interno di un concilio di temi che hanno a che fare con la vita sociale, eccetera, eccetera. Tutto questo va bene, è chiaro che tutto questo respira di Ottocento ancora, respira finalmente di un'assunzione dei processi che avevano in qualche modo infiammato anche l'Ottocento. Il problema nasce, secondo me, si configura in modo diverso quando, la Chiesa Cattolica ha sempre delle grosse difficoltà ad accettare qualsiasi forma di riforma, tant'è vero che non riesce nemmeno a produrla, cioè adesso stiamo aspettando che Papa Francesco riesca finalmente, prima di morire, a tirar su una riforma, ma è un processo... direi endemicamente difficile per la tradizione cattolica, ma questo ci porta da un'altra parte. E quindi la tradizione cattolica non ha digerito ancora completamente la riforma protestante, la riforma luterana, tanto è vero che non riesce ad assumere appieno il Vaticano II perché lo ritiene una cessione, una flessione alla riforma luterana. Tanto meno, o forse ugualmente, non ha recepito fino in fondo la Rivoluzione francese, quindi i processi di laicità che in qualche modo ormai sono determinanti per le nostre società moderne e postmoderne. Ma secondo me la questione dei diritti all'interno della Chiesa cattolica, della tradizione cattolica, diventa scottante, bruciante con il 68. Non voglio dare ragione agli appunti, mettiamola così, agli appunti, non c'entra niente, ma il 68 rappresenta un crinale dal punto di vista delle rivoluzioni, delle riforme, estremamente significativo sul piano dei diritti legati all'esercizio della sessualità, quindi dei diritti strettamente individuali, con tutto l'enorme grappolo di questioni che questo comporta, perché non è solo i rapporti prematrimoniali, voglio dire, ma voi capite, sono tutte le questioni di bioetica. E il nodo conflittuale è lo scontro tra diritti umani e legge naturale, perché paradossalmente ha preso il posto del de iure divino, che garantiva in fondo la volontà, il rispetto della volontà di Dio attraverso il monarca, attraverso l'autorità, è stato sostituito da questo totem dell'autorità della legge naturale, che viene difesa come legge divina. E questo è veramente un nodo enorme, che ci ritroviamo sempre a dover affrontare, sciogliere e non se ne esce. Quindi il de iure divino non riguarda più la configurazione dello Stato e quindi il potere politico, ma il controllo delle libertà individuali rispetto alle scelte che hanno a che fare con la vita. Inizio, fine vita, qualità relazionale, mantenimento della specie, cioè tutto quello che ci troviamo faticosamente a dover contrattare poi, no? Sul piano dell'espressione poi delle decisioni giuridiche dei diversi paesi, no? Allora, Franca apriva il discorso dicendo quali diritti vengono riconosciuti agli individui all'interno di un corpo religioso. Questo per noi, per fortuna, ci salva lo sfilacciamento. Cioè, di fatto, ci salva lo sfilacciamento perché consente di andare... certo, crea zone in cui riesci semplicemente a non dire chi sei, cioè ci salva relativamente, perché poi è un peso forte che paghiamo a livello di polverizzazione dell'identità, di possibilità. Quindi sembra che il problema sia questo eterno della la fede non è una cosa che si può demandare solo al privato, deve esistere un fatto pubblico, quando sappiamo benissimo che qui non c'è solo il privato, ma c'è il privato del privato, cioè che nessuno ormai dice effettivamente come si comporta, perché appunto la discussione è tale che ci si sente sempre tenuti fuori casa, poi in fondo, o per un motivo o per un altro, no? Quindi devi star lì a pensare bene se con questo puoi parlare di aborto, con quell'altro puoi parlare di rapporti prematrimoniali, quell'altro no, è più concessivo su quel piano, insomma, cioè è una fatica poi trovare un'identità cattolica, lì dove invece ancora si pensa che non solo possa, ma debba esistere una identità, diciamo, costituita, diffusa, riconosciuta. Allora, la questione per me profonda oggi, Paolo Naso diceva in fondo la stessa cosa, gestione e controllo sociale delle individualità, che è necessario, che è fondamentale, che serve. Legge positiva o legge religiosa? Questo è. E Paolo Naso diceva niente, ce la caviamo col fondamentalismo, no? Per fortuna, da questo punto di vista, la tradizione cattolica è troppo levantina, troppo romana per essere fondamentalista tout court, no? È abituata appunto ad aggiustare. Sfugge. Sfilacciata, esatto. Però voglio dire, è chiaro che non è che nel quadro questo esalti molto come conclusione, no? Perché crea poi un'altra serie di problemi. Ecco, io di più non dico. Grazie di cuore, io sono molto contento di essere stato il motivo forzato di averti raggiunto, perché sono parole che credo ci abbiano fatto, no? Bene riflettere, ma continuiamo. Gianni, possiamo fare dopo la domanda? Sì? Ah, ok. Ho visto una mano alzata, ma facciamo le domande tutte alla fine. Siamo agli ultimi due interventi. Deborah Scollard, grazie per essere qui con noi, dell'Università di Roma Tor Vergata. Non ci siamo mai incontrati noi personalmente prima, ma quindi questo è un ulteriore piacere poterti vedere oggi e soprattutto ascoltarti. Grazie. Sono contentissima dell'ordine alfabetico perché ho avuto un sacco di stimoli, ma non sono abbastanza veloce da tradurli in una riflessione in corso d'opera, e quindi vado avanti per la mia strada e poi più o meno si vedrà qualcosa, giusto forse. Una cosa mi ha colpito di quello che diceva Adnan Mokhrani, quindi prendo lo spunto dalla sua riflessione, quando diceva che le religioni non offrono un sistema politico, non offrono un sistema economico, non offrono un sistema giuridico. Mi ha preso un colpo, perché sono anni che studio la Sharia e la insegno come sistema giuridico, però è vero, ha ragione, perché la Sharia è molto più di un sistema giuridico, almeno la Sharia che conosco, che ho studiato, è regola di diritto, ma è anche valori etici e morali, valori, principi, norme etiche e morali, e tant'è vero che quando noi la studiamo e la insegniamo, diciamo sempre, stiamo insegnando, studiando e insegnando una parte della Sharia, perché per conoscerla tutta, tanto per dirne una, dovrei darmi a studi di teologia, che non sono assolutamente nelle mie corde, non ho queste capacità intellettuali, quindi tutta un'enorme massa di idee e suggestioni che vengono dalla dimensione squisitamente, perdonate il linguaggio banale, religiosa della Sharia, mi sono purtroppo quasi inavvicinabili, insomma. Ma nella parte giuridica della Sharia, la Sharia detta regole, regole e principi che il credente, maschio e femmina, deve seguire nella sua vita. Allora la cosa interessante, secondo me, in questo contesto non è tanto capire che cosa è stata storicamente la Sharia o come la possiamo definire oggi, quanto piuttosto vedere il rapporto che con la Sharia hanno gli stati islamici contemporanei. Anche a questo faceva cenno prima Adnan Mokhrani. E questa è una relazione, a mio avviso, molto complessa, che negli stati islamici contemporanei, dove per contemporanei intendo dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi, perché ecco la piena indipendenza di questi stati e poi le loro vicende, in molti casi sono piuttosto complesse e articolate, che vediamo definirsi in maniera nuova il rapporto tra il diritto religioso e la funzione dello Stato. In questa dialettica non si può facilmente fare un discorso omogeneo, perché gli stati islamici sono troppi, gli stati che si riconducono e che hanno dichiarato per appartenenza a organizzazioni internazionali di avere un'anima islamica sono 56, parlano lingue diverse tra di loro, hanno storie diverse tra di loro, dunque un qualunque discorso che voglia essere generale soffre dei limiti, se non per la possibilità di ragionare intorno alla riflessione che questi stati hanno avviato nella relazione con la Sharia. La Sharia è stata per secoli il dominio dei dottori della legge. E la cosa interessante del rapporto tra l'idea di Stato e l'idea di diritto religioso nella lunghissima tradizione islamica è stato che, almeno a livello teorico, perché poi naturalmente chi detiene il potere se aggiusta le cose, ma insomma a livello teorico il detentore del potere politico nella cultura islamica è subordinato alla legge. Cioè la Sharia è quella, la Sharia crea il potere, non è creata dal potere, e dunque il califfo come il ciabattino sono uguali davanti alla legge posta da Dio innanzitutto nel Corano, e a questa legge devono uguale obbedienza. Dunque un rapporto di subordinazione, ripeto teorica perché poi chi ha il potere fa quello che gli pare, ma insomma concettualmente subordinazione del potere politico al potere di Dio espresso attraverso la legge. Oggi le cose sono un po' cambiate perché gli stati islamici hanno ereditato più o meno volentieri dall'esperienza coloniale l'idea dello Stato come produttore della norma giuridica. Dunque il potere nomofilattico dello Stato è oggi una realtà per tutti gli stati islamici, anche quelli che noi immaginiamo più conservatori, l'Arabia Saudita e via dicendo, perché anche in Arabia Saudita il potere politico fa le leggi, le ha sempre fatte, anche nel passato, cioè, premoderno, i vuoti della Sharia erano colmati dal potere politico, ma oggi lo Stato fa la legge, dice che cos'è la legge, anche negli ambiti tradizionalmente ricoperti dalla Sharia, vale a dire che il legislatore, che di volta in volta può essere il governo, il Parlamento, prende i testi del diritto sacro antichi e li trasforma in legge dello Stato attraverso un processo legislativo che a noi è molto familiare, appunto l'attività nomofilattica dello Stato, il governo o il Parlamento. E in questa attività di trasformazione della Sharia da insieme di valori etici, morali e giuridici posti da Dio nel Corano e sviluppati dai dottori della legge, lo Stato può, se vuole, avviare delle riforme che sono quelle alle quali faceva prima riferimento Adnan Mokhrani, il dibattito in Tunisia sulla possibile revisione della distribuzione delle quote ereditarie, ma altrove il dibattito appunto sulle forme matrimoniali, sulla progressiva autonomia delle donne, sui diritti delle minoranze religiose e via dicendo. E in questo dibattito la cosa interessante è che la Sharia viene spesso utilizzata in maniera molto strumentale come mezzo per dimostrare l'identità islamica di chi detiene il potere. Dunque, intanto sono uno Stato, un governo, scusate, legittimo in Sudan o in Brunei o in Iran, in quanto ho rafforzato o ampliato o esteso la sfera di applicazione del diritto religioso. E in questo senso il fatto che la legge venga da Dio, sia presumibilmente posta da Dio, solleva un problema che abbiamo visto recentissimamente, forse non vi sarà sfuggita la polemica relativa all'entrata in vigore del nuovo codice penale sharaitico nel Brunei Darussalam, perché ne hanno parlato tutti quanti i giornali, in ragione dell'appello che l'attore George Clooney ha fatto a boicottare tutta una serie di investimenti esteri del Brunei Darussalam, in quanto in questo paese, essendo entrato in vigore il codice penale sharaitico, le persone omosessuali sono passibili di condanna a morte. Ovviamente contraria all'idea di rispetto dei diritti dell'uomo che dovrebbe essere condivisa, e quindi invito a boicottaggio. Premesso che la legge è scritta bene, la legge di Gerusalemme è scritta bene nel senso di prevedere tutta una serie di eccezioni, di clausole e condizioni che rendono di fatto abbastanza improbabile che si arrivi mai a questa alla condanna definitiva. Resta comunque il fatto che se uno per sua disgrazia rappresenta il prototipo tipo della legge muore, se sei omosessuale vieni condannato a morte. Allora, però, perché ho fatto questo esempio? Perché il Brunei è solo l'ultimo di una serie di paesi che ha recuperato più o meno bene, Brunello ha fatto bene, altri scrivono delle leggi pessime, ha recuperato più o meno bene i contenuti della tradizione giuridica islamica per legittimare la propria esistenza, per ridurre la posizione delle opposizioni politiche. Se non ho capito male quello che diceva prima, ormai sto citando sempre lui, ma perché mi ha acceso una serie di lampadine, l'esempio che faceva sempre Mohreni a proposito della relazione tra militari e islamizzazione dell'ordinamento giuridico. Questo abbiamo visto storicamente accadere in Sudan nell'83, è avvenuto seppure in forma molto blanda in Libia dopo la rivoluzione di Gheddafi, è avvenuto in Nigeria, è avvenuto in Pakistan con i colpi di Stato militare dal 79 in poi, la Sharia presa e utilizzata come strumento di legittimazione del potere politico. In questa chiave però diventa anche un problema, perché la Sharia che viene recuperata, proprio perché serve a dare, e vado verso le conclusioni, proprio perché serve a dare identità al governo e al popolo che questo governo ha più o meno liberamente espresso, della Sharia vengono recuperate le norme che hanno un chiarissimo contenuto identitario, e dunque diventa in questo senso la Sharia, nelle mani di alcune forme di potere politico contemporaneo, uno strumento di discriminazione per il diverso. Discrimino il non musulmano, discrimino la donna rispetto all'uomo, il non maschio, inteso, scusate, un'espressione molto brutta, ma il maschio che non si rifà al modello sharitico dal maschio, e il non, oggi la scrittura non c'è più, ma insomma, discrimino sulla base della costruzione di un modello identitario, tra l'altro sempre uguale a se stesso, perché poi questo processo di islamizzazione radicale ha un modello unico, si possono rintracciare proprio delle linee di tendenza condivise, e in questo senso allora il diritto posto da Dio diventa uno strumento di discriminazione per chiunque non è riconducibile a quel modello scelto, che avrebbe delle radici nella volontà divina e che poi è stato scelto, raffinato, definito da ciascun legislatore statale secondo la visione che sta perseguendo in quel determinato momento. Dunque, i diritti nella prospettiva giuridica dell'Islam, quale Islam? L'Islam delle origini? L'Islam dei primi 4, 5 secoli, che è quello che ha fondato il patrimonio che noi oggi chiamiamo Sharia? L'Islam degli stati islamici contemporanei con tutte le loro varietà? Quindi la Tunisia è islamica se la confrontiamo al Pakistan? I pakistani vi direbbero di no, questi tunisini che stanno ogni 3x4 a fare riforme, la libertà delle donne e l'uguaglianza di genere nel matrimonio, l'uguaglianza di genere nelle successioni, e poi basta con il ripudio, basta con la poligamia, basta con il wali al nikah. Dal punto di vista di un pakistano contemporaneo, i tunisini, che dicono cose che non ha senso, sono l'anticristo, cioè hanno rinnegato i fondamenti della religione. Ma è un fondamento della religione questo? Cioè posso dirmi musulmano se rinnego la poligamia, se rinnego il ripudio, se rinnego la discriminazione di genere? Questa è una riflessione alla quale prima ci richiamava, se ho inteso bene, Adnan, nel senso di dire attenzione, perché non è vero, nel senso l'Islam in generale e la Sharia in particolare hanno al loro interno, se viene loro permesso, gli strumenti per ampliare l'orizzonte, la riflessione. Molte delle regole che noi oggi tendiamo a considerare poste da Dio, quindi eterne e mutabili, quindi i musulmani sono fatti per discriminare l'umanità e con loro non si può discutere, in realtà non sono poste da Dio, sono frutto di un'interpretazione, questa sì antica, risalente nel tempo, i primi 4-5 secoli dell'Islam, lasciatemelo dire, un'interpretazione che è anche frutto di attività di giuristi maschi, perché all'epoca, parliamo di 10, 12, 14 secoli fa, le donne non partecipavano all'elaborazione del diritto, e se anche lo facevano non hanno lasciato tracce significative, dunque il contributo è relativo. E allora in queste finestre, che sono delle gran finestre, sono proprio degli spazi enormi, si può aprire il dibattito oggi, e si è aperto il dibattito oggi in moltissimi paesi islamici, su una riforma dei diritti intesa per l'appunto a definire un nuovo paradigma anche di partecipazione democratica e di apertura verso l'altro, verso il diverso, verso quello che almeno fino a quel momento godeva di diritti minori, attenuati, diciamo così. Detto questo, io personalmente ho invece una grande diffidenza nei confronti del ruolo delle religioni nel discorso pubblico, proprio perché le religioni, i monoteismi in particolare, ma lo fanno credo un po' tutte, hanno questa tendenza a considerarsi depositari della verità. E quindi la mia verità di musulmano non è la sua verità di ebreo, non è la sua verità di valdese, di protestante, di ortodosso, per tacere dei buddisti e di tutti gli altri. Dunque non so quali potrebbero essere le forme di partecipazione della religione al discorso pubblico, perché impedire la partecipazione della religione significa tornare a politiche liberticide delle quali non avvertiamo minimamente, io perlomeno non avverto minimamente la necessità, ma certo è che proprio l'esperienza, mi viene da dire, sull'esperienza dell'uso che della religione è stato fatto e viene fatto in alcuni paesi islamici, attenzione, perché se do alla religione troppo spazio nel dibattito pubblico, questo spazio rischia di diventare assorbente, e se le condizioni politiche sono avverse, rischia di diventare anche un facilissimo, utilissimo, abbiamo già visto anche noi tra l'altro nella storia europea, argomento per discriminare chi non è di quella religione o di quell'orientamento, non corrisponde a quel modello perfetto di famiglia, tanto per dirne una, che una certa religione ha discusso. Quindi io ho paura delle religioni in pubblico, ma non so come fare a controllarle, ho bisogno di un aiuto, diciamo così. Grazie. Ilaria Valenzi, c'è un pericolo o no della presenza delle religioni nello spazio pubblico? Cioè, possono essere motivo di discriminazione? Ilaria ha collaborato tra le altre cose con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali, quindi si intende molto della materia, è una giurista, si occupa di libertà religiosa, quindi ci dai tutte le risposte o parzialmente. E poi torniamo con le tante domande che credo tutti noi abbiamo per le cose che abbiamo sentito. Un passaggio, grazie alla professoressa, quando hai detto se gli è possibile. Bellissimo, perché vogliamo chiederti per cos'è che ostacola, no? Dici, se gli è fatto fare, no? Se gli è lasciato fare, può. Quindi c'è qualcosa che blocca evidentemente, storicamente, politicamente, e lì c'è polemica, no? Esiste anche lì un fondo di polemica che troviamo anche sui nostri le testate nazionali, c'è chi scrive che storicamente ci sono dei problemi, sì, ho capito, però poi storicamente quello è, e lì bisogna capirsi forse. Ilaria Valenzi, giurista, grazie. Allora, grazie a voi, grazie per questo invito. Io partirei subito dall'inquadrare, come dire, a partire dalla lettera di invito che abbiamo ricevuto per questo convegno, che è stato questo seminario, che è stato estremamente stimolante, sicuramente una lettera provocatoria, per il mio punto di vista del rapporto fra diritto e religioni, che è un punto di vista ovviamente particolare, che risente della mia identità, che è quella di una giurista credente, protestante, valdese, assolutamente laica nel suo approccio, come dire, al diritto, e assolutamente anche laica nella sua, come dire, sfera di difesa della propria spiritualità, come dire, una ricerca non di commistione fra sfere, ma un equilibrio assolutamente chiaro e presente, che è un equilibrio che paradossalmente io ho imparato all'interno di una chiesa, quindi è come dire quasi un rovesciamento dei sistemi che in qualche modo vengono posti come premessa per questo invito. Che però ringrazio perché mi ha, come dire, costretto, ecco, in qualche modo anche a riflettere a partire da una prospettiva diversa dalla mia. E dunque io vorrei prima di tutto appunto segnare una sorta di confine, di parametro entro cui io mi muovo, ecco, per questo tipo di riflessione, per rispondere alla domanda che cosa sono i diritti, quali sono i diritti, qual è il rapporto fra diritti e religioni, qual è il rapporto della sfera in qualche modo del sacro all'interno del pubblico, ecco, del piano del diritto civile o del diritto delle religioni. Credo che una domanda del genere possa essere affrontata sotto due punti di vista. Il primo è quello di un piano teorico generale, un piano di filosofia del diritto, un altro un piano più dogmatico, positivo. E da questo punto di vista, questa è la prospettiva in cui io mi muovo per questo intervento, e mi sembra che all'interno dei nostri testi costituzionali occidentali, il nostro in particolare, ma anche dei nostri riferimenti legislativi europei, si possa in qualche modo non mettere più in contestazione una serie di acquisizioni dell'ordinamento, all'ordinamento, che sono l'idea del diritto fondamentale, dei diritti inviolabili, e che questi parametri in qualche modo si muovono appunto all'interno di un contesto positivo, come dicevo prima. Se noi guardiamo il nostro testo, i nostri testi costituzionali, o ripensiamo ai discorsi di Lelio Basso, non possiamo non ricordare il contenuto dell'articolo 3 della nostra Costituzione, sui principi di uguaglianza formale e sostanziale, il principio solidaristico di cui è l'articolo 2, ma anche altre norme che più o meno precettive o programmatiche segnano in qualche modo il portato generale e inviolabile dei diritti. Non so, penso all'articolo 36 della Costituzione, no? Uno spazio completamente altro, parliamo di retribuzione. Che cosa è una retribuzione sufficiente per garantire una libertà, una vita, no, libera e dignitosa all'individuo? La libertà, la dignità declinati, no, all'interno di una parte della nostra Costituzione che ha a che fare con i diritti sociali, probabilmente con i diritti umani, non esclusivamente con il diritto, i diritti sociali. Ecco, quindi come costruire un significato dei diritti in tutto ciò? Ecco, è molto complesso, ma in questo caso chiaramente lo sforzo è farlo in rapporto ad altre norme costituzionali, in particolare all'articolo 8 della Costituzione, l'articolo 19 e l'articolo 20, tre principi cardine del diritto di libertà religiosa nel nostro ordinamento. Dunque questo è lo spazio in cui io mi muovo per questo tipo di riflessione, partendo subito dal presupposto che il nostro ordinamento risente di un vulnus di sistema, che è stato più volte già analizzato nei precedenti interventi, e cioè in qualche modo è un ordinamento unico nel suo genere per sottrazione, cioè l'ordinamento da cui nasce in qualche modo l'idea di un rapporto tra sistema concordatario con l'aggiunta di un sistema di legge ordinaria a garanzia per tutti quelli che non rientrano nel sistema concordatario, un sistema che è stato esportato in altri contesti legislativi europei, ma che è appunto incompiuto nel nostro sistema, nel sistema di origine è rimasto incompiuto, manca appunto una legge generale sulla libertà religiosa che faccia da cornice, che regga in qualche modo un rischio più che evidente di squilibrio all'interno di un ordinamento per come si è venuto a delineare con, chiaramente, con l'articolo 7 della Costituzione, con la valenza anche costituzionale, in qualche modo rafforzamento costituzionale in qualche modo che una derivazione pattizia ha avuto e ha ancora. Dunque, che cosa vuol dire oggi affrontare il tema della libertà religiosa e di coscienza, la libertà di religione, di credere, la libertà di non credere, in un tempo in cui assistiamo al consolidarsi del ritorno del religioso nella sfera pubblica? Anch'io parto dal presupposto che questo sia un elemento che noi non possiamo eliminare dalla nostra riflessione. Il rapporto fra il diritto e la religione, fra diritti e religioni, si rivela particolarmente importante per tentare una formulazione con delle risposte a alcuni temi giuridici, ad un ulteriore dato ormai ineliminabile, che è quello della diversificazione di questo tessuto religioso e culturale. Non parliamo più di religione, parliamo di religioni. Non abbiamo un testo costituzionale che spesso ci aiuta da questo punto di vista, perché abbiamo dei termini che dobbiamo costantemente interpretare. Non è più sufficiente parlare di chiese, non è più sufficiente parlare di sistema ecclesiastico, abbiamo dei sistemi anche completamente diversi che sono entrati a far parte del nostro tessuto sociale e giuridico, che devono in qualche modo portare ad una forma di nuova interpretazione di quello che abbiamo. Okay? Non ci si può, da questo punto di vista, dal mio punto di vista, sottrarre dall'analisi anche del contesto delle questioni connesse alle migrazioni e per altro verso anche al tema della sicurezza, che più volte già è tornato. Perché questi due temi, migrazione e sicurezza, se declinati in qualche modo, come abbiamo assistito, in una maniera anche, se vogliamo, insufficiente, hanno teso a polarizzare tutto il discorso su un problema appunto di, in termini di sicurezza o in termini esclusivamente, no, di fenomeno migratorio scisso dal portato religioso che la migrazione ha. Ed esistono invece una serie di questioni che normalmente non vengono analizzate o che non, come dire, non arrivano, ecco, ad essere analizzate ad un grande pubblico, e che noi invece ci dobbiamo porre anche da un punto di vista di una prospettiva giuridica. Il primo tema, dal mio punto di vista, è quello della riaffermazione delle prerogative individuali nell'esercizio della libertà del credente, che non possono subire restrizioni a causa dell'atteggiamento restio dello Stato alla concessione di un riconoscimento per la confessione di appartenenza del soggetto. Cioè, noi spesso e volentieri cadiamo, no, in questa trappola per cui la mancanza del riconoscimento alla confessione dello status di diversi livelli di status fino appunto al raggiungimento della possibilità di avere un'intesa segna anche il limite del riconoscimento del diritto soggettivo del singolo credente, perché la mancanza del riconoscimento della confessione in quanto tale ha una ricaduta negativa anche appunto sulla vita della, della singola persona. Questo vuol dire tante cose, si delinea insomma in tante forme diverse. La prima, che è quella che ha a che fare con la confessione di per sé, è la ricerca in qualche modo di spazi di manifestazione giuridica altri rispetto a quello della confessione religiosa, no? Quindi confessioni religiose che sono tali, l'Islam prima fra tutti, che rifugge dalla sua definizione giuridica di confessione, cerca nuovi spazi di formalizzazione giuridica per avere un minimo di riconoscimenti. Quindi l'Islam non è riconosciuto come, come confessione, cerca di manifestarsi sotto forma di associazionismo, quindi sposta completamente la sfera dei diritti del soggetto e della confessione su un piano altro. Quindi questo è l'esempio tipico, insomma, della, delle cosiddette associazioni culturali religiose, le sale di preghiera e così via, che non riescono in qualche modo, no, ad avere una forma di riconoscimento pieno della loro natura, e quindi automaticamente non soltanto la confessione ma anche il singolo appartenente alla confessione non riesce ad ottenere lo status di diritto di credente o non credente. Ancora di più questa cosa si manifesta negli spazi in cui non vediamo quello che succede, non abbiamo un accesso semplice, un accesso visivo a quello che succede. Mi riferisco ai centri di detenzione amministrativa in cui vengono tenuti i migranti in una parte del loro percorso, lungo percorso migratorio fino a un percorso purtroppo espulsivo. I centri di detenzione amministrativa mancano completamente di qualsiasi forma di trasparenza anche rispetto a forme di tutela della libertà religiosa. Quindi il singolo migrante non è considerato un singolo migrante che ha di per sé anche un portato di diritto alla libertà religiosa. Altro spazio, secondo me fondamentale, è quello di mettere un argine in qualche modo contro una forma di estraneazione del diritto. Cioè, se il diritto non è più in grado di intercettare i tratti della soggettività umana, non è più capace di supportare percorsi di convivenza fra diversità, allora il diritto è costretto a ripensare se stesso. E a questo fine, dal mio punto di vista, occorre ritrovare quella specificità del rapporto fra diritto e religioni, fra ordinamenti e confessioni, con finalità non solo di ricollocare le materie nella loro sede naturale, ma anche di connettere a questa ricollocazione una riespansione di quei diritti soggettivi. L'esempio che io trovo lampante è quello di una sentenza della Corte di Cassazione, della Suprema Corte del 2017, sezione penale, sulla questione del kirpan e dei discriminanti culturali, una questione di cui si è parlato moltissimo, sia per l'utilizzo della categoria delle discriminanti culturali che soprattutto perché si inserisce in un discorso molto più ampio di ricerca pattizia, convenzionale, di rapporto con tutta la grande manifestazione del mondo Sikh che c'è in Italia e che non ha nessuna capacità emersiva, perché non ha nessun potere emersivo, e che risente addirittura con procedimenti penali della, del rischio in qualche modo di una diminuzione rispetto a un portato che è non esclusivamente simbolico ma anche di appartenenza religiosa vera e propria. Cioè il pugnale, il kirpan è il pugnale che i Sikh utilizzano insieme ad altre altri simboli per appunto la manifestazione della propria appartenenza e anche del fatto di come dire, manifestare la propria buona partecipazione sociale, ecco, al mondo, no? Questo insomma è un elemento molto particolare della loro confessione, che non è minimamente affrontato da questo tipo di pronunce, ma che sono pronunce, pronuncia, ha ragione assolutamente di questa pronuncia, ma che appunto non fornisce alcuna risposta, se non che quella già nota appunto in termini di qualificazione del pugnale rituale, in termini più o meno di arma da taglio, riferimento alla presenza o meno di un giusto motivo del porto dell'arma, no? Ma la sentenza fa qualcosa di più, cioè antepone la necessità dell'adeguamento dell'immigrato ai valori occidentali nel territorio in cui l'immigrato si trova, o meglio nel territorio in cui l'immigrato ha scelto di vivere, come dice, come si esprime da questo punto di vista questa pronuncia. E cosa fa dal mio punto di vista, spostando il piano dell'attenzione? Afferma che le questioni rituali connesse al religioso non sono una materia di libertà religiosa, di diritto di libertà religiosa, ma sono una materia di valori identitari. Quindi capovolge completamente il piano. Se noi ci mettiamo sulla strada di trasformare il portato dei diritti di libertà in un problema di affermazione o meno di valori identitari, si capovolge completamente, ecco, il piano delle relazioni. Io non credo che questo sia uno spazio che attiene alla materia dei valori, tanto meno dei valori identitari, ma attiene alla materia dei principi, quindi dei principi costituzionali anche. Qualcosa del genere nel tempo è successo anche con una carica simbolica sicuramente maggiore sulla questione del crocifisso. Ultimissime sentenze del TAR ancora continuano in qualche modo ad affermare ecco, la possibilità della presenza, no, del simbolo negli uffici pubblici, nelle aule scolastiche e così via. E anche in questo caso assistiamo a una riduzione delle questioni di fede a una questione di identità socioculturale. Le sentenze da questo punto di vista si esprimono in questo termine, cioè il crocifisso è un simbolo di una confessione religiosa, ma tale confessione, per quanto tradizionalmente diffusa, non dovrebbe consentire che si attribuisca ai suoi simboli di fede un valore culturale, a pena di sminuirli nel loro significato più profondo. Cioè è una battaglia anche interna della confessione, dal mio punto di vista, fare... rendere in qualche modo del simbolo la sua natura e non trasformarla in qualcosa di altro, e quindi anche la possibilità che questo simbolo poi venga in qualche modo utilizzato in una forma divisiva, in una forma di marcatore del territorio, un simbolo passivo è stato definito più volte. Ecco, sì, dunque, dicevo appunto, un totale rischio, ecco, di... inversione dei piani. Altri aspetti riguardano invece il rapporto fra diversi piani di legislazione, e in questo caso chiaramente la materia principale è quella dell'edilizia di culto, in cui noi assistiamo ad una forma di inversione delle competenze Stato-Regione, una invasione in qualche modo degli spazi, per cui materie che attengono alla competenza esclusiva dello Stato vengono invece invase dalla competenza regionale sulla base dell'utilizzo di materie che invece afferiscono tipicamente alla regione. La materia dell'edilizia e dell'urbanistica è una materia che ha i suoi spazi, ma che non può entrare in rotta di collisione con la materia dei diritti fondamentali, dei diritti generali, che appunto invece sono di competenza esclusiva dello Stato, in quanto derivanti da principi costituzionali. Dunque, io ritengo da questo punto di vista che quello che bisognerebbe cominciare a fare è invertire un po' il piano delle relazioni fra Stato e confessioni, nel senso di immaginare di costruire dei rapporti fra ordinamenti che prevedano su un piano di parità la costruzione di percorsi il più possibile condivisi, e che questa cosa non possa prescindere da un continuo incontro, da una continua creazione anche di disposizioni e norme a partire dall'incontro con le confessioni. Non ha più senso parlare di ministri di culto definendo, in qualche modo riconoscendo tramite procedimenti amministrativi, come abbiamo sentito, ma riconoscendo nella categoria del ministro di culto una categoria che non risponde a quello che i ministri di culto esprimono in confessione diversa dalla cattolica, cioè il rischio è quello di una clericalizzazione in qualche modo della figura del ministro di culto, perché lo Stato conosce esclusivamente un modello, prende ad analisi un modello confessionale e tende a riprodurlo perché è anelastico, no? non entra in contatto con altre forme. Stessa cosa dal punto di vista del riconoscimento della stessa confessione in quanto tale. Noi assistiamo ad un continuo ritorno a affermazioni di peso numerico delle confessioni sulla base dell'analisi dell'unica forma confessionale che lo Stato conosce, su quale misura il riconoscimento o meno dello stato delle confessioni, e cioè quello della cellula base della parrocchia, numericamente contata in tot partecipanti, no? In tot aderenti, anime, e sulla base di quello si passa poi al riconoscimento dei diritti della stessa confessione, ma anche soprattutto del riconoscimento del ministro di culto necessario poi al compimento dell'atto che abbia poi una valenza anche all'ordinamento civile, chiaramente la celebrazione per i matrimoni come primo elemento, insomma quello chiaramente più conosciuto da tutti. Credo da questo punto di vista che l'ottica quindi dell'incontro fra ordinamenti non possa poi essere scisso da un'ottica più generale di rapporto fra sovraordinamenti, nel senso noi dobbiamo ragionare sempre e costantemente all'interno di un'ottica multilivello in cui non esclusivamente abbiamo del riconoscimento dei diritti dal punto di vista del diritto nazionale, ma abbiamo un portato molto più ampio anche di riconoscimento di diritti, molto più in grado anche di comprendere sfere che noi non abbiamo e che va reso per quello che è, cioè delle forme di diritto cogente. Grazie a te, Avvocato Valenzi. Abbiamo finito i nostri interventi programmati, c'è tanta carne al fuoco. Io prometto solennemente di liberare tutti per le ore 18, siete d'accordo? 19? Gianni, che dici? Voteremo democraticamente, perché siamo un luogo democratico. Ecco, io credo, no? Così abbiamo un po' più di lucidità. Raccogliamo un po' di domande o commenti. Mi raccomando, siamo brevi, perché insomma si può dire tanta roba in 3 minuti, non c'è bisogno di fare tutta la storia, e poi sentiamo le risposte di chi è venuto apposta ad essere. Gianni, sei già iscritto, quindi abbiamo già una domanda. Forse abbiamo 3 minuti, non sono sufficienti. Ma sì, ne approfitto del fatto di essere tra gli organizzatori per prenderne. Si sente? No, io sono molto contento del. Vorrei dire, noi abbiamo promosso queste iniziative con uno spirito un po' diverso da quello dei tavoli interreligiosi o dei tavoli interculturali, perché ci sembra che da 4-5 anni a questa parte il clima sia mutato fortemente, quindi quella importantissima esperienza che si fa da circa 20 anni anche in Italia di dialogo sia come non sufficiente, e quindi che bisogna riandare ai fondamenti in una certa misura, graffiare e più che mettere in evidenza i punti di accordo, mettere in evidenza i punti critici, cioè le difficoltà. In questo senso io sono molto grato a Deborah Scholart che ha lavorato nel suo intervento in questo senso. E volevo continuare su questo, ricordando, cosa che tutti sanno, che appunto viviamo in un paese in cui c'è un articolo 7 della Costituzione, in cui non c'è una legge sulla libertà religiosa, come è stato detto, e in cui abbiamo l'unica Chiesa, mi sa, nel mondo, che è piramidale, che ha una gerarchia, che ha degli organi, che scrive documenti. Quindi mentre, diciamo, appunto nel mondo islamico non abbiamo questa fortuna di avere dei punti di riferimento, diciamo, da poter criticare, così come oppure nell'ebraismo abbiamo sentito, o tra i protestanti, e lì qualche cosa abbiamo. E allora io credo che volevo richiamare la vostra attenzione sul fatto che a 50 anni dalla Dignitatis Personae, cioè dal documento del Vaticano II sulla dignità della persona, quindi sui diritti umani, giusto un mese fa la Congregazione per la Dottrina della Fede ha approvato e divulgato, dopo l'approvazione del Santo Padre, un documento che 50 anni proprio sono passati, 53, che ripone le questioni, diciamo, in un modo molto problematico, molto diverso da quello che abbiamo detto qua dentro, no? Nella seconda pagina c'è un'affermazione per una qualche misura stupefacente. Si dice che il fondamentalismo, che questa radicalizzazione, è spesso connotata da una specifica reazione alla concezione liberale dello Stato moderno, a motivo del suo relativismo etico e della sua indifferenza nei confronti della religione. Si può discutere, diciamo, molto su questa frase, però lascia sorpresi, cioè come se l'essere usciti da un secolo di lotta di religioni, dalla conquista araba della Spagna fino alla pace di Vestfalia, sono giusto 950 anni, diciamo, che ci sconocchiamo per ragioni religiose, e finalmente è arrivato Beniamino Franklin e gli amici che ci hanno aiutato a uscire, diciamo, da questa importanza nella vita. E questo, diciamo, è un problema, perché in questo stesso documento, che io credo che noi dobbiamo discutere se è possibile, ne ho parlato già con alcuni degli amici del gruppo di lavoro che hanno promosso questa serie di incontri, credo che dovremmo fare una seduta specifica delle nostre riflessioni nell'analisi di questo documento, anche parlando con persone che lo difendono. Perché in questo documento si ribadiscono tante cose, ma il nocciolo è in una delle pagine finali, in cui si mette in discussione una teoria, ogni teoria che garantisca l'esercizio delle libertà politiche senza invocare il riconoscimento vincolante ad una nozione trascendentale di bene. Cioè, diciamo, qui, capite, una morale senza etica trascendentale, è impossibile. Il fondamento quindi dello Stato è fragile, l'unico fondamento importante, forte dello Stato è quello teologico. Ma come cercavo di scrivere in questa pagina provocatoria di cui parlava, di proposta di questa riunione, anche il fondamento religioso, come sappiamo, ha i suoi problemi, perché in questo stesso documento, con un riferimento ai dottori della Chiesa, in particolare, come è noto, ad Ambrogio, a Basilio, a Giovanni Crisostomo, si dice, guardate, che lì c'era tutta già la teoria dei diritti umani come diritti naturali. Queste sono le radici culturali dell'Europa, appunto dimenticando 1000 anni di sangue versato nelle pianure europee. Queste sono le radici. E cos'è allora la dignità della persona? Quindi c'è una antropologia che giustifica il diritto umano. Quindi il diritto umano, c'è uno spostamento dal diritto, dal terreno del diritto, al terreno dell'antropologia, e l'antropologia, siccome è imago Dei, è una teologia, ma vai a capire come è fatto Dio, se c'ha due gambe, due braccia, diciamo, se appunto è fatto a immagine e somiglianza dell'uomo, per cui posso fondare un'etica, che è una legge di comportamento di chi ha le gambe e braccia, sulla base dell'incondizionato, come si dice. Questo, diciamo, riesce difficile a un filosofo della scienza come me sicuramente, ma diciamo alla ragione occidentale. Questo non significa, io poi sono abermassiano, che il portato delle religioni sul piano dell'etica pubblica, no? Sui problemi che le religioni possono porre, sulla forza che Papa Francesco ha nei confronti delle persone più laide del nostro paese e del mondo. Cioè, questo non significa non riconoscerlo questo, però questa concezione teologica dei diritti umani, secondo me, costituisce un problema serio che bisogna riaffrontare aggiornandolo, ovviamente, perché diciamo appunto non è che dobbiamo rifare l'illuminismo. Io però penso che nella congiuntura politica attuale italiana e del mondo dei documenti di questo genere siano problematici, per cui bisogna che con gli amici teologi, diciamo, che appunto invece li difendono, dobbiamo stabilire un dialogo fitto. Grazie. Bene, perfettamente nei 3 minuti. Adesso... Grazie Gianni Giannoli, grazie mille. Bene, proseguiamo con gli interventi, con i commenti, con le risposte. Prego. Marco Ramazzotti Stockel, sono parte di Beth Hillel, sono europeo, italiano ed ebreo, e anch'io ho delle problematicità da presentare, e cioè io mi sento integralmente parte di un sistema di diritto borghese costituzionale, che Dio lo benedica, perché io sono vissuto in molti paesi e solo quando uno è vissuto all'estero si rende conto di quello che c'è di buono da noi. Quindi diritto borghese, laico, in cui io mi trovo perfettamente bene, anche se mi definisco ebreo. Però se io critico il governo Netanyahu, posso essere definito antisionista e antisemita. Ora, questa è un problema che è giuridico, che è politico, ma che è molto umano, se permettete, perché fa molto male. Io sono profondamente critico della politica del signor Netanyahu e di chi lo ha preceduto nel Likud, ma anche per certi aspetti delle politiche dei governi di sinistra. Da ebreo sono antisemita, sono antisionista sì, per certi aspetti sì, per molti aspetti. Quello che io difendo, i miei interessi fondamentali, essere un buon cittadino, ma difendere gli ebrei e difendere la cultura ebraica pre-sionista. Allora, qui c'è una grande problematicità, perché il nostro diritto ci dà il diritto di critica e poi me lo tolgono con la propaganda? O con quali altre basi? Questo qua è il mio problema. Grazie. Nessuno vuole proseguire la chiacchierata con quello che ci ha detto anche Gianni? Prego, prego. Raggiungici qua che registriamo anche, grazie, con la voce al microfono, gentilissimo. Grazie. Sì. Io mi chiamo Cristiano Mota e Silva, sono brasiliano, sono vissuto con la famiglia qualche tempo in Italia. Terra alla quale ritorno di tempo in tempo per qualche intervento medico del mio figlio all'ospedale Bambino Gesù. Qui ho fatto una ricerca sulla laicità e nell'Università di Roma Tor Vergata. E ho avuto delle lezioni di diritto penale islamico con la professoressa e mi ricordavo lì. Ma una questione che pongo, e sono qui innanzi a tante autorità, il professore Luigi Ferraioli, uno fra i quali, ma mi pongo delle letture che ho fatto di tanti testi diversi di un costituzionalista italiano, professore Gustavo Zagrebelsky. Perché sempre mi è sembrato che c'è qualcosa che non va all'interno di tanti testi del professore. Nel senso, parlo ad esempio di quel libro La legge e la sua giustizia, tre capitoli di giustizia costituzionale, perché parla molto di inclusione della norma costituzionale come norma di inclusione, sempre implica una esclusione perché la Costituzione non può in verità legittimare tutti i valori, sempre fa delle scelte fondamentali, ma alla fine tutti dobbiamo in alcuna misura riconoscerci dentro l'ordine costituzionale. Sarebbe quello che lui denomina di appunto minimo denominatore comune. Tuttavia, quando parla di laicità, cito ad esempio quel libro Scambiarsi le vesti, no? O La veste, di Trice La Terza, parla di una laicità in cui in qualche modo siamo noi credenti, io sono di origine protestante, presbiteriana, riformata, in Brasile, la mia nazione, e in qualche modo noi ci sentiamo un po' a disagio, perché alla fine, se io credo nella Bibbia come parola rivelata di Dio, come credo, in qualche modo io ho una inclinazione con la mia credenza a atti di intolleranza e in qualche modo io sono meno cittadino degli altri. E in qualche modo ho scritto qualcosa all'Università di Tor Vergata, ma al professore Zagrebelsky in questo punto, cui libri ho letto tanto, ho riservato poche cose di questa critica perché esige un'altra tesi, una tesi ma che deve essere fatta. Mi piace tanto, ad esempio, il professore Luigi Ferraioli, libri, ma anche in quel capitolo del libro, adesso nella seconda edizione, Manifesto per l'Eguaglianza, che riprende un capitolo che credo sia stato pubblicato nei Quaderni della Laicità, dell'editrice Claudiana, ma mi faccio anche questa domanda: come possiamo in qualche modo stabilire una nozione di costituzionalismo in cui, come diceva, se non mi sbaglio qui, Norberto Bobbio, in quell'elogio, elogio della mitezza, giusto, in uno dei capitoli, quando parlava in uno dei capitoli di questo libro, che alla fine tutti noi possiamo essere dogmatici anche con il nostro relativismo. E tutti noi abbiamo così il rischio, che nella mia tradizione presbiteriana riformata connettiamo alla natura caduta dell'uomo, di essere intolleranti con gli altri. Vi ringrazio e sono contento perché quando ero a Roma, dopo un intervento del mio figlio al Bambino Gesù, ho saputo per internet che la Fondazione Basso ci darebbe un giorno così benedetto. Un abbraccio a tutti. Grazie a te, obrigado. Qualcuno vuole dire qualcos'altro? Abbiamo delle altre cose. Mario, vuoi dire una cosa? Giorgio, facciamo Giorgio, Mario. Così. Sì, Giorgio. Giorgio Gome. Allora, ma io sono abbastanza vicino a quanto ha detto Paolo Naso, fondamentalmente, cioè magari con qualche piccola variazione sul tema, cioè se ho capito bene, Paolo, tu sei un difensore del pluralismo culturale, religioso, eccetera. Però il termine, mi pare, no, di pluralismo culturale e religioso risale a un giurista ebreo americano, Kellen, insomma, che in un certo senso, vabbè, il tema effettivamente è molto complesso, cioè da un lato io penso, lo dico così, insomma, anche semplificando molto la questione, penso che sia importante la laicità nel senso di uno Stato laico non confessionale che assicuri, che sia garante, diciamo, del, che sia un neutrale garante del, del rispetto appunto del pluralismo religioso, della, della diversità religiosa, della libertà religiosa, eccetera, eccetera. Però, ecco, non penso che sia una buona cosa la laicità, la laïcité, insomma, alla francese. Non è, anche se, voglio dire, per certi versi mi piace, però devo dire che storicamente, poi nel guardare all'oggi, certamente, nel guardare all'oggi, quando guardi a queste nostre società occidentali così complesse, multireligiose, multietniche, eccetera, eccetera, il modello francese di laïcité così rigorista, assimilazionista, eccetera, eccetera, non va. Però è anche vero, Paolo, che ci sono anche delle forme, diciamo, degenerative, diciamo così, di multiculturalismo, di, fatto di separatezza, poi. Cioè è difficile essere multiculturalisti senza finire nel separatismo, purtroppo. Cioè c'è anche, quindi l'eccesso, adesso uso dei termini un po' così, non rigorosi, la cosa forse ha più a che fare con il grado, con la quantità, ecco, che non la qualità della cosa. Cioè l'eccesso di religione nello spazio pubblico può anche degenerare ed essere quindi deleterio rispetto, diciamo, alle nostre idealità di una società plurale, aperta, tollerante, eccetera, eccetera. Tu hai detto giustamente del fondamentalismo e del fatto che ci siano fondamentalismi nella società contemporanea che sono nell'Islam, che sono nell'ebraismo, eccetera, eccetera. Hai detto, ovviamente, è una cosa molto importante, che ci sono dei legami distruttivi fra il fondamentalismo e la geopolitica. Al limite, diciamo, le cose che hanno a che fare col diritto di famiglia, insomma, ci sono dei fondamentalismi. Faccio un esempio, per esempio, io conosco molto bene Israele. Allora, ci sono dei fondamentalismi innocui in Israele, che sono quelli dei Haredim, degli innocui, insomma, hanno a che fare col diritto di famiglia, le donne, la modestia del vestire, eccetera, eccetera. Però sono benigni, innocui. In realtà non lo sono, perché, voglio dire, ci sono forme di violenza al muro del pianto contro le donne, eccetera. Vabbè. Però ci sono dei fondamentalismi invece nazionali religiosi, ecco, quelli dei coloni, che sono ovviamente, inneggiano, come dire, all'integrità e sacralità della terra di Israele, la terra promessa, riservata al dominio esclusivo di noi ebrei, e quindi i palestinesi fuori dalle palle, eccetera, eccetera. Cioè sono, come dire, due fondamentalismi nell'ebraismo che sono diversi, insomma, nelle loro conseguenze. Quindi l'insistere, come tu hai fatto, il ricordare la dimensione geopolitica, per esempio nell'Islam, insomma, nell'islamismo fondamentalista aggressivo, bellicoso, espansionista, cioè quello è molto grave, molto distruttivo, insomma. Ma certo l'Islam non è l'unico fondamentalismo di taglio aggressivo, ecco. Quindi insomma finisco col dire che ecco, ancora una cosa che ha a che fare con l'ebraismo, voglio dire, il tema, insomma, allora, nell'Ottocento e anche nel Novecento, l'ebraismo in Occidente, soprattutto nelle società più raffinate, più evolute, in Francia, in Germania, eccetera, era molto attratto dall'idea, gli ebrei francesi si definivano Israelite de France, no? Gli ebrei tedeschi dicevano essere, è molto forte nella Riforma, per esempio, essere tedeschi in strada ed ebrei in casa. Cioè la religione è un fatto privato, per certi versi la Riforma di metà Ottocento che ha ricordato Franca in Germania era molto protestante in un certo senso, Mendelssohn già nella Scala alla fine della, e poi Geiger eccetera eccetera a metà dell'Ottocento, cioè vivevano in un contesto, come dire, protestante, quindi luterano, e quindi in un certo senso c'è stato un forte influsso come dire rispetto al movimento della Riforma. La Riforma, diciamo, l'ebraismo riformato contemporaneo è molto diverso, però certamente a metà dell'Ottocento in Germania e poi in Inghilterra, nel mondo anglosassone, eccetera, questa idea di essere tedeschi in strada ed ebrei in casa, o italiani per la strada ed ebrei in casa, era molto forte. Ecco. Quindi ecco, questo tema, diciamo, della religione nello spazio pubblico è un vecchio tema che io non ho delle ricette precise, perché insomma ho detto delle cose probabilmente anche contraddittorie, eccetera. Trovare quel giusto mezzo fra come dire, il poter professare la religione nello spazio pubblico, cioè uscire per la strada, non essere costretto a celebrare la tua confessione religiosa nella piena identità solo domestica, ma il farlo nella strada. E quindi il pluralismo è questo, cioè voglio dire, il pluralismo autentico, però ecco, è difficile, voglio dire, è difficile farlo in una società, ecco, come quella italiana, come alcuni hanno ricordato, in cui indubbiamente c'è una cultura egemone, fortemente egemone, in più gerarchica come la Chiesa Cattolica, e le altre religioni piccole, la mia è particolarmente piccola, ma il fatto che tu hai ricordato, siccome le quantità contano, probabilmente hai ragione, cioè il fatto che ci siano 6 milioni, cioè 10% di italiani non più cattolici, che ci sia un pluralismo che è connesso al fenomeno migratorio anche, forse è importante, cioè nel senso che è una cosa che magari noi non viviamo così fortemente nella nostra generazione, ma nelle generazioni prossime, cioè è un pluralismo che ha a che fare con la demografia in un certo senso, no? Col vissuto concreto delle persone. Grazie Giorgio, ringrazio Giorgio. Prego, Presidente, e poi Paolo si è stato chiamato a rispondere a tutto. Prego. Mario, scusami. Prego, prego Mario, mettiti in coda che mi dimentico, vieni. No, io sarò molto breve. Voglio quasi scusarmi, perché noi avremmo dovuto, se avessimo avuto spazi, tempi, più disponibilità, di mettere insieme l'argomento di oggi con l'argomento che discuteremo fra un mese. Perché il problema di fedi e diritti è speculare e simmetrico rispetto al tema fedi e potere. E infatti oggi, in tutti gli interventi, poteri, in tutti gli interventi sono emersi aspetti di questa speculare simmetria, quasi contrapposizione. Del resto, ogni diritto che emerge, si afferma, limita un potere. E anzi, la lotta per i diritti, quasi sempre storicamente, è stata la lotta per la delimitazione dei poteri. Però qui c'è un maestro sul tema, che è Luigi Ferraglioli, e di questo tratterà lui. Io vorrei proprio far emergere tre esempi che sono emersi, evidenziare tre esempi emersi oggi. Il documento che ha letto o a cui ha fatto riferimento Gianni Giannoli, che ripropone questa condanna e questo vizio genetico di tutta la cultura occidentale del relativismo, che mi sembra molto razzingheriano, per la verità, probabilmente lo è, probabilmente è anche un frutto di equilibri complicati. L'uso della sharia anche in chiave identitaria strumentale da parte di molti governi di paesi islamici. La brutale imposizione culturale, ne faceva riferimento poc'anzi Ilaria, da parte di una sentenza che può essere giustificata, questa imposizione del modello culturale, semplicemente come espressione di una clamorosa incultura che cancella 200 anni di cultura giuridica. E infine, se consentite, l'accusa che chi, verso chi critica il governo israeliano, di non solo di antisionismo, ma addirittura di antisemitismo, che non è semplicemente un'accusa che fa male a chi viene dalla cultura ebraica, ma è un'accusa che noi della Fondazione Basso ci sentiamo in modo ricorrente. Qui c'è uno dei bersagli proprio di tutto un movimento di identificazione di un pezzo di comunità romana tra cultura ebraica e l'espressione dell'attuale governo israeliano, al punto tale che allora quando qui ci siamo permessi di criticare una legge, che l'ultima legge diciamo rilevante sulla identità ebraica, che ha sollevato problemi innanzitutto in tante comunità ebraiche, naturalmente, cioè in tutti quelli che, pur mantenendo i legami forti con etnie, religioni, culture e così via, però hanno introiettato l'illuminismo, la libertà di coscienza, la libertà di critica, di manifestazione del proprio pensiero. Ecco dunque che dobbiamo leggere tutte queste cose di oggi tenendo già in considerazione l'altro aspetto, che molte di queste cose, fedi e diritti, hanno uno specchio, che è quello dell'analisi fra il ruolo del potere e dei poteri direttamente verso le fedi, sia nell'aspetto di negazione, sia molte volte nell'aspetto di accettazione e di strumentalizzazione finalizzata all'esercizio del potere. Da questo punto di vista io vi faccio un appello, poi insieme sceglieremo le persone, i relatori, gli interlocutori di qui a un mese, ma io auspico davvero che tutti i presenti oggi in qualche maniera ripetano questo impegno e questo sforzo nel ritornare a discutere delle cose che discuteremo di qui a un mese circa. Grazie. Grazie al Presidente Ippolito. Mario Campi, prego. Ma io avevo due domande e mezza da porre un po' ai relatori, quasi a tutti. Una è, ormai è stato già posto, ed era questa meraviglia che sentivo, che nessuno citava questo documento come una problematica connessa, e quindi adesso è stato già detto, e sono curiosito di vedere un po' su quel documento. Voglio solo aggiungere che siccome era, si dice, in preparazione da circa 5 anni, o in gestazione, o messo lì, come mai adesso, con un'autorizzazione papale, di cui il comunicato ufficiale dà conto, 21 marzo c'è l'autorizzazione, il 30 aprile esce il documento. E, vabbè, e mi fermo qui, salvo ecco ricordare, però sto andando a memoria, che ha un titolo, non so se volutamente pretenzioso, ma dice libertà religiosa, bene di tutti, quindi va fuori il perimetro dei credenti di vario tipo, e poi aggiunge, mi pare, considerazioni teologiche sulla società contemporanea. E quindi, insomma, bene. Beh, questo era un po' la domanda. La seconda, questo non è, riguarda solo questo terzo step, ma oggi, anzi, forse riguarda più lo step fedi e verità, ma oggi è venuto fuori, secondo la mia percezione, con molta evidenza, e cioè, e la domanda che faccio è, una distinzione cara alla mia generazione, che non so se prima dei 30 anni lesse l'edizione delle lettere dal carcere di Dietrich Bonhoeffer con la prefazione, non una prefazione, con un saggio introduttivo del grande Italo, del filosofo Italo Mancini, e quindi io sono rimasto, la mia generazione credo, molto affezionata a quella distinzione tra fede e religione. Qui lo vedo usato come sinonimo. Adesso non voglio dire che quando abbiamo scelto il titolo Fedi e Libertà, io un po' ci pensavo alla distinzione e non religione e libertà. Ecco, quindi questa era la seconda domanda. E poi la mezza domanda è un po' collegata. Cioè, quando ascoltavo Adnan mi chiedevo, ma forse dunque è confermato che ogni analisi e riflessione sulle religioni non può essere come su una cosina il cui statuto è fuori dai mondi, è metastorico. E mi sono ricordato di un'altra lezione, di per esempio Hans Küng, che ha riscritto e riletto i tre monoteismi, ebraismo 1991, cristianesimo 1998-97 e Islam 2004. Adesso Hans Küng si tace perché non sta bene, è anziano, eccetera, però quello quindi è stato un po' il suo come dire, lascito culturale del tutto il suo staff di Tubinka. Lui ha rotto con i teologi, ha discusso prima animatamente anche con libri con i teologi, perché applica lo studio della religione la definizione del paradigma culturale di un filosofo della scienza, Thomas Kuhn. Punto. E da lì non fa il teologo. Poi lui inevitabilmente si ferma, quando studia il cristianesimo, mi pare, al sesto paradigma nella costruzione storica, e quindi ingloba la modernità, tra virgolette, tanto per dire una parola, ingloba anche la prima, seconda o terza secolarizzazione, per usare questa temporizzazione di alcuni sociologi, ma assolutamente si ferma prima di una contemporaneità che delinea un paradigma culturale estremamente complicato e diversificato, che c'è dentro la bioetica, c'è dentro l'innovazione il digitale, insomma. Quindi anche qui continuiamo a parlare di religioni al di fuori di un paradigma culturale di questa. Io un po' delle riflessioni di Paolo Naso li trovo, come devo dire, non solo legittimate, ma benvenute, un po' perché devo ancora capire dove va a parare, perché stiamo in questo settimo paradigma, che non forse coincide totalmente col termine post-secolarizzazione. Sono andato un po' oltre le domande, ma ci tenevo molto e finisco sulla questione fede e religioni. Questa distinzione è passata. Forse voleva rispondere Paolo o no? Facciamo le conclusioni. Sì. Paolo, ma tu sei stato chiamato in causa, forse una risposta la vuoi dare? Sì. però ti chiediamo di vestirti del politologo e darci indicazioni, perché sociologo, ok, sai descrivere, adesso ci dai il politologo. C'è. Nessuno sa perché, neanche Paravati. La denuncia in Francia? Sì, questa cravatta che porto è la cravatta della Church of Scotland, quindi è un simbolo ostensivo della mia appartenenza religiosa. Parto con questa battuta per dire un po' come la penso su varie questioni. Lo dirò con una certa rozzezza per essere più chiaro, ma si può essere più raffinati di come sarò nei prossimi 5 minuti. Fede è una parte, religione dall'altra. Questa è una casa un po' eterodossa e quindi da valdese mi permetto di dire che sono eterodossamente d'accordo con te. Questa categorizzazione, tipicamente bonaferiana, per alcuni aspetti anche bartiana, non ha più senso. Non ha senso nel momento in cui io non conosco una fede pura, pura, assunta nella sua purezza assoluta, diafana, travagliata, che non sia anche espressione religiosa. Come si fa ad avere fede senza immaginare una comunità, un pastore, un imam, un rabbino? Come si fa a concepire un rapporto con l'altro senza darsi una disciplina che in qualche modo poi definisce e struttura una religione? Quindi, certo. Purché pratichiamo lo sfilacciamento. Sì, certo. Ma infatti qui è un po' l'animo sociologico che parla e che dice anche empiricamente, questa distinzione su cui siamo cresciuti, cioè il mio biberon aveva il latte, e la distinzione tra religione e fede, laddove il sottinteso, il sottotesto è: noi protestanti abbiamo la fede, i cattolici hanno la religione. Questo era in estrema sintesi, Allora, ecco, allora, capite che siccome questo schema non mi convince empiricamente, io non vedo questa da una parte i cultori di una cosa assolutamente pura e indefinita, che poi non si struttura anche in una forma sociale, organizzata, comunitaria, con una dogmatica, per quanto leggera possa essere, io credo che tu abbia sostanzialmente ragione e quindi aderisco a una problematizzazione. Capiamoci, dopodiché è evidente che un conto è una fede sinceramente vissuta, altro conto una dimensione superstiziosa, il famoso Dio tappabuchi, sempre per citare Bonhoeffer. Quindi una fede matura, una fede adulta, una fede che si gioca anche nel confronto con l'ipotesi della non fede, cioè del non credere. E da questo punto di vista io credo che la categoria della post-secolarizzazione, decidiamo se la quinta, come dice Berzano, o la settima, come dici tu, sia la categoria funzionale. Dopodiché intendiamoci, c'è qualcuno che quando si parla, Ratzinger, quando si dice post-secolarizzazione, dice che bello, è finito il sogno relativista. Abbiamo vissuto questa ubriacatura che è data 1968-1989, una ubriacatura della modernizzazione, eccetera. Finalmente questa cosa è finita, torniamo allo status quo ante, Don Matteo, la tunica, il presepe, il crocifisso. Chi pensa questo andrà di fronte a una drammatica disillusione. Della post-secolarizzazione c'è Salvini con il rosario in tasca, c'è tanto Padre Pio, ma c'è anche tanto sincretismo. Qual è la tua religione? Per ora sono nel buddismo. Per ora sono nel buddismo? Che significa per ora sono nel buddismo? La signora che mi ha regalato questa cravatta mi ha detto di aver celebrato il battesimo del figlio di Madonna, so anche come si chiama Rocco. Io ero fermo che questa signora è la moderatrice della Church of Scotland, numero 5 della gerarchia di Buckingham Palace. Quindi, perché Madonna? O è cattolica? Io mi ero fatto l'idea che fosse mezza ebrea. Si è sposata in una chiesa in Scozia e 6 mesi fa ha battezzato suo figlio Rocco con una cerimonia della Church of Scotland. Quindi, per dire, questa è la posta. Benvenuti in questo. Se vi piace, questa è la post-secolarizzazione. Dice, no, ma io penso che sia soltanto il ritorno al discorso di Dio dello spazio pubblico. No, quello è un aspetto. L'aspetto nobile è quello, ma poi c'è tutta quest'altra roba. Questo per aderire sostanzialmente al tuo percorso. Potrei provare a dirlo meglio, in modo meno grossolano, mi scuso, ma ci sto, insomma. Tre considerazioni, diciamo, di dialettica con tre interventi. Il primo è con la mia amica Ilaria. Nel senso che lei, la giurista, mi richiama al fatto che il ministro di culto non può essere, come dire, piegato alla natura dell'ordinamento, perché ogni religione ha una sua figura particolare, e quindi l'imam non è il prete dei musulmani, l'imam non è neanche il vescovo dei musulmani, perché c'è questa idea, il maestro di meditazione non è il prete dei buddisti, benissimo. Il dramma della legge sulla libertà religiosa prima e dell'intero ordinamento italiano è stato che tutte le confessioni religiose, se non la cattolica, hanno dovuto compiere una torsione ecclesiologica per adattarsi a un vestitino che era stato confezionato secondo le misure, la taglia e la postura di un prete della Chiesa cattolica. E allora, Ilaria, sì, lo so, questo è sbagliato, ma per così dire, così è. E allora, certo, sognando scenari diversi, ma è ovvio che per fare avere un permesso di ingresso a un monaco buddista dobbiamo dire che il monaco è il prete dei buddisti. Perché questo è il livello del confronto. Chi di noi si sporca un po' le mani cercando di gestire dei processi politici, alla fine dai grandi discorsi raffinati sulla torsione deve passare a spiegare al prefetto della Repubblica che il pastore pentecostale è il prete dei protestanti. Il dissenso dei tuoi amici ebrei, che mi hai così ben ricordato, in occasione della legge del 29, era esattamente questo, tra le altre cose, che diceva come noi costruiamo una chiesa ebraica. Cosa vuol dire una chiesa ebraica? Un corpus di comunità ebraiche che si strutturano in una forma ecclesiale, unitaria, con un papa che è il rabbino capo di Roma o il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Questo è innaturale con il congregazionalismo tipico dell'ebraismo, dell'ebraismo italiano. Lo dicono loro, nessuno li ascolta. I pentecostali, dal 44, guerra ancora in corso, quando finalmente i pentecostali sono stati perseguitati in questo paese, perseguitati, chiuse le chiese, i pastori mandati al confino, eccetera, perché era un culto che nuoceva gravemente alla salute fisica e psichica della razza ariana. Circolare Buffarini Guidi, sottosegretario di Stato, 1935. Bene, finalmente si riorganizzano. Allora, i furbi dicono, ragazzi, facciamo la chiesa. I puristi dicono, no, ma noi non siamo una chiesa, noi siamo congregazionalisti, quindi siamo delle chiese, la chiesa è locale, quindi la chiesa di partito. Posso dire la mia, meno male hanno vinto i razionalisti, perché altrimenti, il patrimonio di queste chiese sarebbe andato totalmente in disfatta, mai avrebbero potuto godere del riconoscimento giuridico che hanno grazie anche all'aiuto degli americani. Quindi a volte io dico che queste torsioni sono necessarie, forse non sono il male minore. Due, sarebbe troppo bello, mi rivolgo alla collega Deborah, spostare in là il problema. E capisco che bisogna fare una distinzione fondamentale tra paesi a democrazia occidentale e paesi di nuova democrazia o di democrazia in progress. Il caso della Tunisia è il caso migliore, il caso del Sudan non mi permetto di fare previsioni, perché tutte le previsioni che abbiamo fatto sono state tutte accuratamente sbagliate, quindi non le facciamo per favore sul destino del Sudan e del Sud Sudan in particolare. Però dico che sarebbe troppo facile dire non mi piace, lo temo, e quindi li rimuovo, anche perché mentre noi facciamo questa operazione, altre ipotesi religiose sono saldamente al centro dello spazio pubblico. Voi siete troppo raffinati per guardare le trasmissioni del pomeriggio, se vi capita di osservare mezz'ora di trasmissioni del pomeriggio, sicuramente a un certo punto beccate il fedele di Padre Pio e il parroco antifrancescano, inteso come anti, lo beccate scientificamente in un qualsiasi reti Mediaset, Rai, non fa alcuna differenza. Di fronte a questo, io rivendico invece, io lo rivendico da Valdesia, che non viene ascoltato mai da nessuno, se non da quelli che firmano per l'8 per 1000, che ringraziamo, ma da Valdesia, che non viene mai ascoltato da nessuno. Io vorrei una volta che un nostro eticista potesse spiegare cos'è il rapporto di fine vita, per esempio da un punto di vista, altro che teologia naturale, e altro che, come dire, la vita come elemento biologico dal concepimento alla morte naturale. Però questo non lo sentirete mai. Quindi, in nome di questo pragmatismo e di questo vuoto, di questa aporia, io credo che la politica non debba essere nuovamente quella della sottrazione, ma piuttosto quella della addizione. Terza osservazione, quella sui testi della Santa Sede, meglio, della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ah, non è della congregazione. Benissimo. Quasi peggio perché il mio senso. Allora, posso dire una cosa? Cosa c'è di nuovo? Nel senso che è esattamente il mantra che abbiamo sentito in tutti questi anni, in cui la tesi fondamentale è che il mondo era felicemente riconciliato con Dio, a un certo punto interviene come una lama un fenomeno religioso politico come la riforma protestante, che individualizza il rapporto con Dio, quindi toglie la dimensione comunitaria del governo del pastore, ma individualizza, quindi ognuno diventa sacerdote con se stesso. E questo determina una rottura dell'ordine morale, etico, psicologico, la famiglia, da lì al femminismo e all'aborto è tutto. Questo l'avevamo capito. E fate bene, se siete interessati al genere, a smontare questa teoria. Io non sono più interessato a smontare queste teorie. Perché non mi raccontate cosa pensano dei laici di questi problemi? Perché il pensiero laico, che noi protestanti abbiamo rincorso, di fronte al quale ci siamo inginocchiati, anche per cercare un fronte comune, una sponda nei confronti del clericalismo patto, ma perché il pensiero laico non mi dice più nulla su tutte queste cose? E quando dice qualcosa il pensiero laico, stranamente assume la postura dell'inginocchiamento. E quindi abbiamo assistito in tempi recenti. Ho detto a volte assume la postura dell'inginocchiamento. La mia non è una sfida polemica, Franco, è davvero un bisogno essenziale, perché della concezione dialogica dello spazio pubblico, Habermas e via cantando, è fondamentale che ci sia un punto di vista non religioso, e arrivo a dire irreligioso, ma deve esserci un codice per stare in questo spazio pubblico. Quindi io da questo punto di vista colgo l'esigenza di destrutturare la narrazione ratzingeriana che sopravvive, ma sento anche il bisogno di lanciare una sfida culturale ai nostri amici, li sento tali, laici, perché la sensibilità e il patrimonio del pensiero laico sia più presente nello spazio pubblico. Quanto a Giorgio, io dico che tutte le sue puntualizzazioni mi trovano perfettamente d'accordo. La laicità non si declina in modo univoco, e lo dice Bobereau, cioè uno che della bandiera della laicità ne ha fatto il senso anche della propria missione accademica, voglio dire, del proprio ruolo nella società francese. E io credo che allora tutte le cose che ci siamo detti, per esempio sui fondamentalismi, trovano un altro ulteriore elemento di attualità e di vigore in riferimento alla questione della radicalizzazione, che non è il fondamentalismo. Ahimè, è una cosa per alcuni aspetti anche peggiore. La radicalizzazione è il nostro vicino di casa che si chiama Del Novo, che abita a Genova e che poi scopriamo un giorno che è morto combattendo per l'ISIS in Iraq. Sto raccontando una storia di un ragazzo di 27 anni contenuta in questi nuovi testi che dobbiamo assolutamente cominciare a studiare. Perché c'è un fenomeno di radicalizzazione importante anche nel nostro paese, e la strategia di contrasto alla radicalizzazione non può essere soltanto quella della prevenzione, dell'intelligence, per quanto credo che davvero si debba rendere atto del fatto che è molto avanzato il sistema di intelligence italiano, ma c'è un problema di sensori sociali che immediatamente bisogna cominciare a percepire, e credo che moschee, luoghi di culto, comunità religiose, figure spirituali, figure carismatiche, possono avere un ruolo fondamentale, insegnanti, possono avere un ruolo fondamentale in questa attività che è di prevenzione e di deradicalizzazione, a una condizione, che loro riconoscano il senso di quello che sta accadendo, l'identità che questi ragazzi disperata, perché di questo stiamo parlando, hanno tutti meno di 37 anni. Quindi ragazzi, il vuoto che questi ragazzi cercano di colmare ricorrendo a forme blasfeme di religiosità come quello che ho detto. Quindi anche da questo particolare punto di vista, che forse appare un po' troppo securitario per questa platea, però credo che il tema del monitoraggio, della valorizzazione delle esperienze e delle partecipazioni religiose possa essere molto importante. Davvero grazie per questa bellissima... Grazie Paolo. Allora, molto brevemente, così facciamo le conclusioni, però di due parole. Sono ragazzi normalissimi, cioè non c'è il profilo, il profilo non è, ecco, non è il ragazzo disagiato che viene dalla banlieue. Ecco, questo fa sì che il caso italiano sia molto diverso, incomparabile rispetto al caso francese o al caso inglese. Grazie, grazie. Beh, non è che esauriamo i temi tutti adesso, c'è tanto da voler discutere, questo ci incoraggia come gruppo di lavoro. Sì, certo, prego, però vieni che registriamo. Scusami, se no ti porto il giro. No, aspetta, perché quando mi rimetto in piedi devo... No, una cosa sola. Sul documento della Commissione Teologica Internazionale. Ma se uno va su internet trova che c'è un commento di un qualche cardinale, credo che sia orientale, Vain Thanh, insomma deve essere cambogiano, non lo so, che dice che è un documento terribile, perché non chiude la questione, non dice che l'unica religione è quella cattolica, e continua nella stessa linea di Dignitatis Humanae, non si chiudono le questioni. Questo è drammatico. Allora, voglio dire, anche sui documenti, sarà che noi siamo un po', abbiamo fatto gli anticorpi a tutti i documenti di tutti i tipi che escono, però bisogna anche proporre delle letture che hanno dei presupposti critici. Se lo facciamo sulla Bibbia, ancora di più su un documento di una Commissione Teologica Internazionale che ha cambiato completamente il suo volto durante la coda del pontificato di Giovanni Paolo II e poi Ratzinger, e che è assolutamente... Primo, secondo, un documento che la prima cosa che ti dice l'Osservatore Romano, non ti dice che non ha avuto la maggioranza. Questo noi che siamo dentro, per quanto sfilacciati siamo dentro, quando sentiamo non ha avuto la maggioranza, cosa che non si diceva, non ha avuto l'unanimità, pardon, ha provato a maggioranza. Per noi questo è miele, perché prima non si poteva dire, prima nella Chiesa Cattolica tutto era approvato all'unanimità. Il cominciare a dire, adesso il Papa l'altro giorno in aereo ha detto come al solito sulle donne, ha fatto un altro scivolone, l'ennesimo, perché non coglie, però voglio dire, dice la commissione che ha lavorato sul diaconato mi ha consegnato un esito per cui non sono d'accordo. Alcuni dicono una cosa e altri un'altra. Ecco, e lui ha dato ragione a quelli che dicevano le cose peggiori. Allora, fatti un esame, adesso se qualcuno glielo dirà sarà un bene di dire se tu hai tre che dicono una cosa e quattro che dicono un'altra. O dici ho scelto il criterio della maggioranza, o dici ho scelto il criterio di andare dietro i conservatori, e questo ha fatto. Anche se magari era uno che l'aveva detto. Allora, piano piano, immettere dei criteri di lettura della realtà anche della nostra Chiesa, io capisco, noi ci abbiamo avuto un momento in cui si diceva il Verbo non si è fatto carne, si è fatto carta, perché la profusione di documenti che abbiamo è terribile. Però voglio dire, se lo facciamo sulla Bibbia, ancora di più su questi documenti, che possono anche essere tranquillamente emarginati, cestinati. Cioè c'è una selezione, e io sono d'accordo, Paolo, che il silenzio più grave è quello del pensiero laico. Perché queste voci qui, da questa di una commissione teologica internazionale, che finché non cambia è così e basta, capito? Anche perché non ci sono più gli stessi studiosi degli anni 50, 60 e 70, non ci sono quelli di quell'area lì. Ormai noi viviamo, purtroppo, ma credo come tutti, di altre batterie di riferimento, e quindi abbiamo questo. Allora voglio dire, anche il non dire che questa è l'espressione del pensiero cattolico solo perché l'ha approvata il Papa, se l'ha letta è tanto, però certo una commissione teologica internazionale non si può permettere da noi di pubblicare un documento se non c'è la ratifica, quindi non c'è dubbio. Quindi, voglio dire, ci vuole un pochino più di dinamica nell'interpretare i soggetti e nel discuterli, ecco, solo questo. Grazie, dovremmo, insomma, tutti vorremmo, penso, intervenire e dire altro, ma attendiamo le conclusioni, perché la discussione continua nel prossimo appuntamento, che è tra il 12 giugno e oltre, speriamo di proseguire questo percorso. Luigi Ferraioli, grazie per essere qui, ascoltiamo le tue conclusioni, lo conosciamo benissimo, qui è per la Fondazione Basso. Forse Paolo, nel momento in cui abbiamo organizzato queste cose, parlando degli uniti, e l'ultimo intervento è di Luigi, stavamo pensando giusto alla cultura laica. Alla cultura laica. Sì, il mio sarà un intervento ovviamente da laico, non soltanto da laico ma anche da non credente, e questo sotto certi aspetti è anche un limite, perché devo confessare di ignorare sostanzialmente, di non conoscere gran parte delle questioni teologiche che dividono i credenti e che caratterizzano le diverse religioni, e dunque ci potrà essere qualche grossolanità nel mio intervento proprio legato alla mia ignoranza in materia religiosa. Dico subito una cosa: a mio parere c'è un unico modo per rendere compatibili la religione e le libertà, la fede, tanto quanto è distinguibile dalla religione e le libertà, ed è cioè la laicità, dove per laicità si intende la separazione, per l'appunto, tra diritto e morale, tra Stato e Chiesa, la secolarizzazione che è avvenuta con la modernità, una separazione enunciata anche dalla nostra Costituzione, non tanto dall'articolo 7 ovviamente, la vecchia tesi della libera Chiesa e il libero Stato, ma direi anche un precetto evangelico. Io non sono un credente, però il precetto evangelico mi sembra che dica: date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Dove Dio, per chi non crede nell'esistenza di Dio, equivale alla coscienza, equivale alla libertà di pensiero, cioè date a Cesare quel che appartiene alla sfera pubblica, alla sfera del diritto, e riservate alla coscienza, alla sfera per l'appunto morale, alla sfera privata, tutto il resto. E questo principio equivale a un postulato del liberalismo, in forza del quale il diritto può considerare illecito, proibire, intervenire soltanto per ciò che riguarda i comportamenti che producono danno agli altri, e viceversa non può intervenire sulle questioni morali, non può intervenire sulle questioni religiose. La libertà di coscienza è, per così dire, la condizione non soltanto della convivenza tra religioni e Stato di diritto e democrazia e liberalismo, ma è anche la condizione della convivenza tra più religioni. non a caso la libertà di coscienza, la libertà di religione è la prima libertà fondamentale, dopo il diritto di emigrare che è stato teorizzato molto prima nel 1539 da Francisco De Vittore, il primo diritto naturale nella storia del pensiero giuridico, ma certamente la libertà di coscienza, la libertà di religione è la prima libertà, diciamo, che pone fine alle lotte di religione, che sono lotte identitarie, lotte di potere, ed è la condizione del pluralismo religioso, del multiculturalismo. Intanto possono convivere pacificamente più religioni, più fedi, in quanto a tutti sia garantita la libertà religiosa, non soltanto di coscienza, ma evidentemente anche di professare in pubblico le proprie religioni, insomma la libertà religiosa nel senso più ampio. E qui però che si aprono una serie di paradossi, di problemi e anche di contraddizioni, perché la tesi secondo cui appartiene alla competenza del diritto, dello Stato, soltanto la garanzia della convivenza pacifica e quindi la punizione soltanto degli atti offensivi, non è condivisa dalle religioni. Certamente non lo è dalla religione cattolica, che pretende di imporre e di trasformare in diritto le proprie verità morali. Questo è avvenuto in materia di divorzio, in materia di aborto, in materia di procreazione assistita. E cioè, anche senza essere ratzingeriani, c'è questa pretesa di usare il diritto come un sostegno della morale, come un sostegno eteronomo, sulla base, tra l'altro, di una concezione della morale paradossalmente trasformata in diritto, e cioè una concezione della morale che pretende il sostegno armato del diritto, in forza della quale le opzioni morali, e cioè decidere di rimanere in rapporto di matrimonio con una persona che si odia, supponiamo, oppure non abortire, oppure restare legati a una macchina per in omaggio al principio della impossibilità di decidere sulla propria sopravvivenza, richiede il sostegno armato, il sostegno dello Stato. Non è una libera scelta, non è affidata all'autonomia. E io credo che questo trasformi l'etica cattolica, l'etica religiosa, in qualcosa di molto simile al diritto, che ha bisogno del sostegno della sanzione. E credo che un'etica autenticamente vissuta dovrebbe rifiutare per prima il sostegno, per l'appunto, coattivo, coercitivo dello Stato. Non soltanto dunque non imporre a chi non crede le proprie verità religiose, ma addirittura rifiutare questo sostegno. E questo solleva però una questione, e cioè quel residuo di fondamentalismo che io da non credente ho sempre avvertito nelle religioni in quanto tali. Giannoli ha letto questo documento che mi sembra molto significativo. Ho ricordato le pretese della Chiesa di imporre le proprie verità religiose, e io ho l'impressione che questo residuo di fondamentalismo, oppure questo aperto fondamentalismo che c'è in molte, diciamo, correnti dell'islamismo, dell'ebraismo, dell'induismo, ovviamente del cristianesimo, sia legato ad una concezione oggettivistica della morale, della religione, e a una concezione cognitivistica, in forza della quale le tesi delle religioni sono considerate vere. Vere in senso dogmatico, vere in senso assoluto. E siccome non si può ammettere, come nessuno di noi ammette, che 2 più 2 faccia 5, o che il sole giri intorno alla terra e non viceversa, È chiaro che questa concezione cognitivistica, oggettivistica dei valori non può che comportare intolleranza. E questo mi pare il paradosso che è alla base delle religioni in quanto strutture di potere. Ha fatto bene Franco a ricordare il nesso che c'è fra religione e potere. E allora io ho l'impressione che qui ci troviamo di fronte a un dilemma. È possibile una religione tollerante? Sicuramente è possibile, in quanto pura fede, in un certo senso il protestantesimo è in questa direzione. Una religione tollerante come quella, per esempio, ho qui, molti di voi la ricorderanno, la conosceranno, la preghiera di Voltaire, che appunto si stupisce del fatto che si scontrino tra di loro religioni che credono tutti nell'esistenza di un Dio e che si differenziano soltanto per fenomeni del tutto irrilevanti, del tutto ridicoli, del tutto incredibili, del tutto sciocchi, come per l'appunto i riti, le vesti, la concezione dei sacramenti, cioè tutte cose che agli occhi di Dio dovrebbero sembrare del tutto insensate e che si falsificano l'un l'altra, perché evidentemente non è comprensibile agli occhi di un laico, come era evidentemente Voltaire, il conflitto fra concezioni diverse di un unico oggetto. Ma per altro verso, mi domando, ma domando evidentemente ai credenti, è possibile una religione che rinunci all'idea della verità assoluta, della verità rivelata? È possibile una religione che si fondi sul dubbio, sull'incertezza, sul mistero, sulla consapevolezza del fatto che in realtà non sappiamo niente di queste cose? E in altre parole, è compatibile la religione con la tolleranza delle concezioni evidentemente irreligiose, a cominciare da quelle dall'ateismo, ma finire evidentemente dalle religioni diverse? La storia ci parla di lotte di religioni e le religioni sono sempre state un fattore identitario, ma lo sono anche oggi. E anzi, incominciano ad esserlo in maniera assolutamente allarmante. Lotte identitarie in forza delle quali il non credente è un infedele da convertire o da combattere o da sopprimere o da mandare sul rogo. Insomma, c'è una storia di intolleranza che non so quanto non sia legata statutariamente all'idea stessa di religione. E naturalmente qui mi fermo perché sono risposte che può dare soltanto un credente. Però mi domando anche se sia compatibile con la democrazia liberale in questo senso, una religione istituzionalizzata. Certamente la religione cattolica alla fine ha dovuto accettare, convivere con lo Stato di diritto e con il liberalismo, ma non so quanto l'abbia fino in fondo, diciamo, accettato. Sicuramente questo è un Papa straordinario che sembra nella direzione di Voltaire, che non dia grande importanza alle differenze religiose e forse neppure alla mancanza di religione. Non so quale sia il suo pensiero sull'ateismo. Ho l'impressione che non dia enorme importanza a questa questione. Giustamente le questioni importanti sono di tutt'altro genere, però è anche un Papa fortemente contestato. Ed è fortemente contestato, a loro modo hanno ragione quanti lo contestano, perché non è la natura stessa della religione che impone la verità rivelata e che impone la necessità della fede nel senso di obbligo di credere, una delle cose che io ho sempre considerato più assurde e più insensate, l'obbligo di credere. C'è un peccato addirittura, no? Chi non crede, lo contestava Hobbes, perché naturalmente non può essere un peccato accompagnato dal dolo, dalla volontà di peccare. Chi non crede semplicemente non crede, è un peccato di pensiero. Questa, diciamo, questo fondamento oggettivistico, cognitivistico, questa assenza del dubbio, è compatibile con la religione? Probabilmente quasi tutti voi direte di sì, perché credo che questo sia il senso di questi nostri incontri, e cioè realizzare una compatibilità tra religione e libertà fondamentali. E però ho l'impressione che le religioni organizzate, istituzionalizzate, le chiese, e anche dove non c'è una chiesa, le religioni, diciamo, come stanno diventando comunque componenti allarmanti e inquietanti che si stanno manifestando in Israele, nell'Islam, in India, gli evangelisti, stiano di nuovo riproponendo con forza il problema della compatibilità tra religione e democrazia. Grazie di cuore per queste conclusioni che aprono domande, dubbi e posizioni da discutere. Al prossimo appuntamento, 12 giugno e oltre, come vogliono i sequel più famosi, e buona serata.